Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio. Lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e l'occidente. I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa. Era il mezzodì, la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle, perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole. Svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento, un appuntamento live che abbiamo deciso di fare per questa notizia che da ieri che ci... insomma che ci ha un po' sconvolto, ci ha fatto un po' strano insomma ascoltare, sebbene era una notizia insomma che era nell'aria da molto molto molto tempo. Vabbè, comunque prima di entrare nel tema specifico della puntata, allora avete sentito questa intro un po' particolare, quindi ringraziamo Alex Raccuglia che ovviamente questa sera è presente alla parte tecnica, ma non solo. Abbiamo cercato di dare un po' una regia, probabilmente nell'hangout forse non si sentiva benissimo, però vabbè, poi nella puntata che uscirà nel feed insomma ascolterete bene quello che abbiamo cercato di fare e quello che Alex, che è anche l'autore di questa puntata, ha cercato insomma di comunicare. Detto questo, ovviamente con me il mio compagno di merende è sempre lui, sempre Stefano Biggio. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. sei emozionato per questa diretta, sai, ci stanno ascoltando sempre gozziglioni di persone. Io sono emozionato anche quando sono in registrata, quindi non c'è problema, sono sempre emozionato. Anche quando ti ascolti? Anche quando, soprattutto anche quando mi ascolto. Ok. Un compagno di viaggio che non poteva mancare in questa puntata particolare, Giuseppe Saso. Ciao Giuseppe. Buon salve a tutti. E si è aggiunto dicendo: anch'io ne so qualche cosa, ma in realtà non è vero. Simone cognome Andreozzi. Sempre la figura dello scemo devo fare. Comunque buonasera. No, lo facciamo perché ti vogliamo bene. Senti, tra l'altro ho molto terrore di usare la tastiera. Esatto, sono arrivate mail, insomma, su in merito a questa cosa qui. Va bene, diamo un attimino molto velocemente i nostri riferimenti. www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito di riferimento. dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Il Twitter lo dice Stefano. Il Twitter, dato che sono l'unico in grado di dirlo a quanto pare, esatto. È dietrologia videoludo. Esatto, e poi abbiamo anche la fantastica, ma io perché me lo dimentico, la fantastica pagina su Facebook che è dietrologia videoludica, che sta crescendo molto lentamente, ma sta crescendo. Genau. Veniamo al dunque di questa puntata che è venuta, cioè ci è balzata così, insomma, come idea all'improvviso ieri, soprattutto ad Alex, mentre che veniva condivisa questa notizia che Disney ha chiuso gli studi di LucasArts. Ognuno ha reagito un po' a modo suo in merito a questa questione qui. Io in particolare ho avuto una reazione forse un po' spropositata, visto e considerato che non stiamo parlando di parenti né di amici, però sicuramente è una cosa che un po' ci ha colpito. Ovviamente, essendo questa una puntata di dietrologia videoludica ed essendoci Stefano Biggio, sì, l'autore di questo episodio che ha subito pensato, insomma, di creare questo hangout, questa diretta, questo streaming, ha scritto il testo introduttivo che ogni puntata di ideologia videoludica ha. In realtà poi dopo magari ce lo spiega, facciamo entrare anche in audio anche Alex, ci spiega un secondo un po' l'idea che ha avuto, insomma, machiavellica dietro questo episodio. Ovviamente l'introduzione, Stefano, ti tocca. Stavolta mi è tocca, un po' lunga, quindi siamo andati veloci nell'introduzione, nel senso, però purtroppo questo è un passaggio che tu devi fare, noi ovviamente poi sì, ti daremo i nostri quattro, insomma. Esatto, tenete conto del fatto che è molto lunga, dal fatto che sono appena tornato a lavoro apposta per voi, eccetera, cioè tutte le attenuanti del caso, certo, diciamo. Certo. Altrimenti avresti fatto tutta la notte. Io sì, diversamente, ovviamente. Ma perché ti hanno ripreso dopo che tu gli avevi detto che andavi a fare il podcast? Ti hanno ripreso. Oggi me l'ho visto un po' tipo, erano le 9, mi hanno detto: ma devi andare a fare qualcosa perché ti vediamo un po' troppo svelto. Io no, beh, a parte che ho bevuto mezzo litro di Monster, quindi adesso se smetto di parlare ho paura di morire. Muoio. Penso, esatto. E poi ho detto: devo andare a registrare il podcast. Mi ha detto: vai, diverti. Poi ancora, il bambino che deve andare. La cazzata lì dell'altra volta. Ti avevamo detto anche di non tornare, tra l'altro. Esatto, mi ha detto: vai, stai a casa questo fine settimana, anche il prossimo. Ho detto: ah, va bene, grazie. Come siete gentili. Comunque, quindi, a parte ciò, torniamo insomma, alla puntata di ideologia video di, esatto, che ricordiamo provvisoriamente o definitivamente si chiama Funeral for a Friends. Sì. Funeral for a Friend. Adesso vediamo un po', cercherò di leggere in maniera. Stiamo andando contro Santoro stasera, ricordiamo. E devo Santoro. Tu guarda che, cioè, Santoro nelle cuffie, tipo, cioè, nella pausa pubblicitaria ci ascolta. Lui si mette appena okay, a posto, si collega su YouTube e ci ascolta. No? Dalla regia mi dicono che Gualdi sulla fiducia già ti ha dato 4, anche se non hai letto. Saluto Marco, lo ringrazio, anch'io ti voglio bene. Salutiamo Marco, salutiamo anche Luigi, tra l'altro, che questa sera giustamente ha detto: siete più appassionati voi, andate voi, insomma. Vabbè. Comunque, saluto anche Vittorio, che sento vicino nel nostro lutto, Vittorio, per la perdita. Che ci vogliamo bene a Vittorio. Che ci vogliamo bene. Ma vogliamo benissimo. Iniziare magari? Perché vogliamo iniziamo, esatto. Vogliamo iniziamo. Allora, inizierò a leggere. Speriamo che vada bene. È come quando se ne va un amico. L'avevi conosciuto ai tempi delle medie e poi sei rimasto insieme a lui per gran parte delle superiori. Ti aveva fatto scoprire un modo di divertirti che nemmeno immaginavi. La prima canna, il primo racconto, la prima confessione di un'esperienza sessuale, una partita giocata insieme. Poi tu sei cresciuto, lui è cresciuto. Avete percorso strade diverse, siete cambiati, ma per te lui è sempre quello dei primi ricordi. Un po' come quando vai su Facebook e vedi gli amici dei tempi che furono. Sono passati 20 anni e non li riconosci più. Preferisci quasi ricordarli come erano, dei bambini, dei ragazzini. E poi vieni a leggere sul giornale che proprio ieri è scomparso, morto, assassinato. Sapevi che non se la passava bene, che aveva percorso altre strade, che ora faceva cose che non ti divertivano più. Ma tu gli hai sempre voluto bene, come un fratello, come a qualcuno a cui hai affidato un po' della tua giovinezza. Era un'altra persona quella che avevi conosciuto quando eri un ragazzo. Era già scomparso da tempo, ma ora il suo nome è impresso per sempre su una lapide. Ti piacerebbe andarlo a trovare, stare davanti alla sua tomba con altri compagni a ricordare i bei tempi andati. Forse lo farai, forse no, forse anche una parte di te è morta in questi 20 anni. Quello che sai e di cui ti rendi conto è che non passa giorno senza che qualcosa della tua infanzia, dei tempi spensierati, quando le cose erano più semplici, ti viene strappato via. E dici che sei un uomo, vorresti convincertene. Ma una parte di te, quella che sogna, perché non smetterà mai di sognare, continua a sperare. E sembra che un giorno potrai prenderti una lunghissima vacanza per tornare, per qualche tempo, a rivivere quelle emozioni, quelle sensazioni, come se i ricordi si potessero trasformare in esperienze reali. Poi ti svegli il giorno dopo, assonnato, ti guardi allo specchio mentre ti fai la barba. Pensi che devi andare a lavorare, che devi pagare il mutuo, che forse fra poco ti puoi sposare, mettere al mondo altri bambini, e non c'è più spazio, non c'è più tempo, non ci sono più risorse per tornare a quello, ad essere quello che eri una volta. E non ci sono più lacrime, non ci sono più urla strazianti, c'è solo una vita fatta di responsabilità e sacrifici. Fino alla prossima volta che aprirai il giornale e leggerai un'altra notizia così. Ok, per coloro che stanno ascoltando, abbiamo ripreso insomma dopo una serie di problemi e quindi ci scusiamo insomma per tutto questo, questi casini che si stanno creando. Veniamo ai voti. Purtroppo proprio per i problemi di diretta Stefano ha dovuto leggere in maniera spezzata, però devo dire che mi ha impressionato e per la prima volta dopo 9 puntate hai veramente 9 proprio dal cuore. Si vedeva che stavi raccontando la tua storia, insomma, in qualche maniera. È la storia di tanti, diciamo. Di un ragazzo che come me, eccetera, eccetera. Peppe. Bene, un 9. Yeah. Ma il ragazzo si è impegnato abbastanza, era molto sentito. Volevo dargli il 10, però 9.5, dai. Ah, vabbè, ci può sta. Simone. Mm-hmm. 9.5 veramente stavolta grandi applausi a scena aperta, grandi sganazze alla faccia di Marco Gualdi, dillo pure. E beh, manca Marco Gualdi, io leggo. Forse è Marco Gualdi che mi fa leggere male. Probabilmente sì, perché poi in realtà sono in soggezione, in realtà le scrive lui, lo sai che lui le scrive col trabocchetto, sposta le virgole, fa le cose senza sì, no, ma quello un po' tutti lo fate, non preoccuparti. Alex, che è il nostro regista, io non so se Alex è nelle condizioni di poter intervenire, però mi pare giusto che anche lui dica il suo voto, no? Beh, mi è piaciuto. Ti è piaciuto, quindi? Dai, facciamo 7.5. Sette e mezzo. C'ha le mani che gli puzzano d'ascella, come si dice. Ah, merda. Detto anche T-Rex. Va bene. Allora, perché abbiamo fatto questa diretta? Questa diretta l'abbiamo fatta perché, come dicevamo, insomma, prima di essere interrotti 64 volte, Disney, che ha acquistato tutto il blocco del patrimonio creativo e produttivo di Lucas, George Lucas, ha deciso di recente, insomma, di chiudere gli studios di Lucas Arts, che prima erano Lucasfilm Games. E io direi che prima di entrare insomma nel vivo della scaletta, che poi in realtà non vuole essere una puntata tecnica ma proprio una sorta di puntata commemorativa, anche se come abbiamo detto e come hanno detto anche altri utenti, ho visto nella chat di YouTube prima, in realtà non solo era prevista questa cosa, ma cioè, stiamo parlando comunque di un'azienda che era in perdita e che non produceva assolutamente niente e continuava a licenziare soltanto gente, anche se poi ci sono da dire delle cose in merito anche a questo. Facciamo un primo giro molto molto rapido su una vostra opinione iniziale su questa questione qua, sul fatto che Disney si è comprata LucasArts e quindi con Lucasfilm Games, cioè Lucasfilms e tutto quello che ne comporta. Insomma, che sensazione avete avuto quando avete saputo la notizia dell'acquisizione e comunque tutta l'ironia che c'è stata dietro, e poi ovviamente anche le notizie del fatto dei nuovi film di Guerre Stellari, J.J. Abrams e la chiusura di LucasArts e quindi la chiusura anche di brand importanti e anche giochi in sviluppo, come addirittura credo c'era un videogioco insomma che era Uncharted nello spazio, che era sì, Star Wars 13-13, esatto. L'ho visto a Colonia, esatto. Sì. Partiamo da Peppe. Ma guarda, io sinceramente una volta che avevo letto l'acquisizione di LucasArts da parte di Disney ero già convinto che ormai eravamo arrivati al momento di staccare la spina, perché come vedremo insomma LucasArts non se la passava bene già da un pezzo, era era già con un piede e mezzo nella fossa fondamentalmente. Poi insomma il fatto che poi l'abbia pure preso Disney, per quanto riguarda diciamo dal lato prettamente videoludico, lasciava pure presagire comunque cose cattive, perché ricordiamoci che Disney per esempio un altro studio che è stato chiuso anche di recente, ricordiamolo, è il caso di Junction Point Studios di Warren Spector, ricordiamocelo, che dopo appena diciamo un paio di titoli praticamente è stato cassato al primo gioco che non andava, cioè Disney Epic Mickey 2, e quindi ovviamente è sempre sentore che nel momento in cui un gioco va male e si registrano perdite ingenti, la prima cosa che fanno è mandare tutti a casa fondamentalmente, quindi era sentito. Dal lato invece cinematografico sinceramente so già che non andrò a vedere assolutamente episodio 7, 8 e tutti gli altri praticamente, che non c'entra poi niente tra l'altro con mm-hmm. il tipo di trasmissione, però in realtà mm-hmm. Avete saputo, no, del fatto che l'attrice che ha fatto la principessa lei pare che apparirà nel settimo film? Sì, sì, sì. Mm-hmm. Avevo sentito questo tipo un cameo, una cosa così. Un cammello, sì. Un cammelto. Cameo è quella delle torte anche. Ah, anche esatto, okay. Apparirà sotto forma di musica. Abbassate il volume perché vi sento un feedback nelle cuffie. E okay. Simone. Buonanotte, Simone. Ma per me... No, non è... Per me la cosa è stata è come il passaggio dall'adolescenza all'età adulta o l'entrarci, che comunque chi senti che ha superato diciamo i 28, 27 si ricorda in qualche maniera tutto quello che era LucasArts, appena una parte dei videogiochi ovviamente oltre che poi dei film, ma insomma quello era già nell'aria che si sarebbe tramutato insomma. Però la cosa che fa più pensare appunto era la parte dei videogiochi, anche perché io l'ho conosciuto e l'ho apprezzato più per quello che per altro, e l'ho vissuto più per quello che per altro, e è come se calasse il sipario su tutto un mondo. E quindi da questo punto di vista è stato abbastanza triste. Che è successo? Ah no, niente. E quindi onestamente non saprei cosa potrei aggiungere di più, se non appunto avere ancora più chiara l'idea, come ha letto anche Stefano prima, del fatto che si va avanti, che le perdite sono, anche se non sono di persone come dicevi prima, non so, parenti, però vogliono dire qualcosa. Poi ti ripeto, in forma magari minore e te in forma maggiore, o chi ha apprezzato di più e ha giocato più quei giochi sicuramente ci sarà rimasto male, insomma parecchio male, quindi questo sì. Per il resto però c'è un po' la speranza che magari Disney non abbia fagocitato completamente, ma stia riassettando. Magari potrebbe essere pure un ponte verso il futuro, cioè un passaggio dovuto per poi avviare una nuova una rinascita, una nuova era, non lo so. Ce lo vedo, perché non avrebbe senso fare un acquisto del genere e cominciare a tagliare così, certo, tanto. E Stefano, allora, in primis, per quanto riguarda, adesso velocissima parentesi sui film, io dopo quello che ha fatto George Lucas ho quasi più fiducia nella Disney, sinceramente, perché qualunque cosa mi mostrino probabilmente sarà migliore di quella che ha fatto Lucas, sì, perché non ci vuole tanto. Paradossalmente sì. Prima di arrivare a dire una cosa così, vuol dire che proprio mi ha sfrantumato le gonadi. Detto ciò, per la LucasArts sicuramente, insomma, io come ho detto anche ieri, sono d'accordo sul fatto che, ok, fosse una casa di produzione ferma con un sito ormai obsoleto, però Simone concorda già con me, era lì, era come se, non lo so, è quell'albero che tu vedi ogni giorno andando al lavoro, un giorno te lo tagliano e ti dici oddio che fine ha fatto, tu ci speri sempre che magari quell'albero dia dei frutti, per dire, quindi sai, uno magari spera, dice chissà che in un futuro non ci sia un ritorno del vecchio team, che creino delle cose diverse, nuove. Beh, scusami, sì, Stefano, però era un'illusione questa, cioè sì, tutti ci ludevamo con questa speranza che esatto, ma in però realtà lui l'ha premesso, cioè nel senso sì sì, era esatto, cioè era più una cosa simbolica, esatto, piuttosto... è più come avere un paziente in coma e tu comunque speri dall'oggi al domani, sì, che, esatto, che si svegli più o meno. Tra l'altro c'è da aggiungere anche che poi i storici game designer, facciamo Ron Gilbert, sì, o Tim Schafer, hanno tutti preso strade diverse, sì sì sì, e cioè, non sono riusciti a abbissare poi alcuni quello che fu in tutto ciò, no, quello no, però come dire, dava quel senso di possibilità che ci fosse. Faccio un esempio, i Pink Floyd, c'era, non lo so, qualche possibilità che ci fosse una loro reunion, ne sono morti un paio, adesso è impossibile. Poi Genesi sono ancora vivi praticamente tutti, quindi penso che sarebbe circa anche possibile, però metti, per Pink Floyd uno poteva sperarci, e lì, qui è come appunto, ne sono morti due, ormai non c'è più la possibilità. Salutiamo, che faccio una reunion. Salutiamo Umberto Princeri e Alex Racuglia, ovviamente, che stanno ascoltando. Vai, vai. Bene, e quindi appunto era, sì, una cosa simbolica che non esclude che in ogni caso queste cose non vengano riproposte in seguito, nel senso, i diritti loro ce li hanno comunque, quindi no, ma vedi che LucasArts è morta come studio di sviluppo, ma esatto, come publisher è ancora vive e vegeta, cioè sì, può benissimo, appunto, come hai detto tu, dare su licenze, le proprie licenze per lo sviluppo a terze parti, sì, anche se pure questo è un discorso non... e quello magari lo vediamo più in là, io senso, esatto, io ho delle idee citare, su questo per fare una citazione completamente in tema, non escludo il ritorno, insomma, diciamo, Disney, non escludo il ritorno, è la frase che si è fatto scrivere Califano sulla tomba prima che salutiamo ovviamente, sì, insieme ci ascolterà dalla sua, però salutiamo tutti e due, sì, vabbè, li salutiamo tutti e due, dai, sì, sì, tutti e due ci vogliamo bene. Io non so che frase si è fatta scrivere sulla tomba. Torno, sì, subito. Ah, torno subito. No, non lo so, no, sto scherzando. E qui c'è The Walking Dead che incalza. No, quello ce l'avevamo noi sul, vabbè, ce l'avevo sul crocifisso alle medie, avevamo messo. Vabbè, dai. Perché vabbè, era vuoto. No? Sai, sì, cari amici, sì, molto bazinga, insomma. Uno scherzo. Vabbè, io in realtà sono abbastanza d'accordo con quanto detto da Stefano, prevalentemente perché c'è un discorso di fondo, esiste o forse è esistito un tempo, probabilmente, che non è più compatibile col tempo di oggi, in cui alcuni simboli, no, in qualche maniera venivano rispettati, no? Cioè si tentava sempre di farli sopravvivere in qualche modo, soprattutto quando diventavano simboli. A me mi ha lasciato molto perplesso in generale, visto, ecco perché abbiamo fatto la prima domanda sul fatto che cosa ne pensate dell'acquisizione in generale, e quindi ovviamente mente anche dei film, di quello che è successo a Lucas negli ultimi periodi. Mi ha lasciato molto perplesso il fatto che Lucas aveva preso, Lucas Arts aveva preso poi una direzione politica anche abbastanza particolare, che era quella: ok, noi non siamo più in grado di essere uno studio di sviluppo all'altezza del mercato AAA per tante ragioni, probabilmente anche per mancati investimenti, quindi mancanza pure di interesse verso la company, dalla company più importante, quella principale, e allora noi ci ridirigiamo verso il provare a dare nuova linfa a quelli che sono i franchise o IP che abbiamo insomma in magazzino, che ce l'abbiamo sempre avute, perché la grande fortuna di Lucas è stata quella di aver potuto attingere a patrimoni creativi che probabilmente nessuna software house ha mai avuto nella storia, insomma. E questo tentativo in qualche maniera è un po' quello che diceva Biggio, no? Nel senso che l'albero è lì, nel senso è quella cosa che sta lì e sai che un giorno potrebbe anche tornare in una maniera diversa, in una maniera più piccola. Poi abbiamo visto, e questa è la cosa che mi lascia un po' perplesso e che poi ovviamente mi fa dubitare anche su quello che magari ha provato a dire è stato prima, se l'ho capito bene quello che intendeva, il fatto che in realtà c'è stato un tornare indietro rispetto a questa cosa qui, esatto. No? E questo tornare indietro mi fa pensare che veramente c'è un totale miopia da una parte, perché ovviamente qui è diventato soltanto un problema economico evidentemente, e dall'altra c'è un c'è proprio un disinteresse, no? E quindi se neanche quello che puoi fare, quindi rivitalizzare il mito che tu sei stato, ti interessa, a quel punto è chiaro che l'unica speranza, anzi l'unico risultato possibile, è quello della morte. E la morte di Lucas, per tanti come noi, che in realtà invece Lucas ha significato tanto, è veramente posso aggiungere, io trovo un parallelismo con quello che è successo per Sega. Perché per quanto sia che per me sì, perché comunque io sono Sega, vabbè, non la sa, non è preparato, vabbè, dai, vai. Sono cresciuto con quelle sicurezze, cioè c'è Sega che combatte con Nintendo c'è appunto c'è LucasArts che ha fatto le avventure grafiche, Lucasfilm che ha fatto Indiana Jones, eccetera eccetera, e io ho visto, cioè la sensazione è stata un po' quella, un parallelismo tra oggi con Lucas e quando fu con Sega, che non avrebbe fatto più, che non avrebbe fatto più hardware, e addirittura vedere Sonic su console Nintendo, per dire, ai tempi fu veramente una sensazione strana. È come Totti con la maglietta della Lazio. No, io non lascio la plebe in calcio. È diventato oscuro in volto. Si è fatto oscuro il 50% dei tuoi ascoltatori. Ma scherzo, ma scherzo. Sai, è la volpe e l'uva, no? Cioè, non lo capisci e quindi dice non ti interessa. Ok. Bravo. Vabbè, comunque sono abbastanza d'accordo con te. Insomma, non so, penso se volete. A te te frega niente di Sega, però, perché tu arrivi da un altro periodo. E comunque no, ma in realtà in generale. In realtà a me non mi è mai. Cioè, proprio non ci ho mai avuto questa passione verso il videogioco in termini giapponesi. Nintendo, Sega. Vabbè, no, comunque il parallelismo, scusami, ci sta, Simone, ci sta. No, anche perché magari ricordiamo che come poi penso andremo a vedere quando parleremo nel dettaglio anche un po' della software house, l'eterno rivale di LucasArts, Lucasfilm, è sempre stata Sierra Online, solo che Sierra Online è cessata un po' prima, e anche quella è stata, prima di morire, è stata riassorbita, ricordiamo, da Activision, che detiene tuttora i diritti di alcune La questione dei diritti di Sierra tra l'altro è ancora più paradossale, mm-hmm. perché in realtà sì. La cosa è molto più intricata, addirittura si mettono a fare le guerre ai fan game, quindi c'è, cioè, nel senso roba del paradosso, perché poi Sierra diventò Vivendi, poi Vivendi fu assorbito, esatto. Quindi sono abbastanza d'accordo con quello che dici te, però faccio un'esternazione da lucasiano, cioè nel senso cioè, i giochi della Sierra erano sicuramente particolari, erano sicuramente veramente belli, Roberta Williams e compagnia bella, però non c'è la storia, dai, cioè nel senso... No, ma certo, sono d'accordo, anche perché con tutte le avventure Lucas, quindi fino al Green Fandango, di fatto seguivano una certa filosofia di sviluppo, che da quando hanno deciso poi di volgersi solo ad FPS e simulatori, quindi tutto il brand di Guerre Stellari, è mancata. Certo. Sì, sono d'accordo. Scusa, era un attimo perché mi chiamava la regia. Allora, invece di raccontare la storia di Lucas, secondo me, perché quello lo faremo probabilmente in altri podcast, poi ci saranno altre puntate, altre situazioni, probabilmente anche quelle di archeologia videoludica, che farà uno speciale anche su questa cosa qui, raccontiamo la nostra storia nei confronti di Lucas, cioè nel senso, qual è stato il primo approccio, il primo ricordo con un videogioco di Lucas, o quando abbiamo scoperto che il marchio Lucas, che fino ad allora era legato al cinema e quindi a Guerre Stellari, si è improvvisamente legato a un videogioco, che sensazione avete avuto e via dicendo. Io partirei da Stefano. Sì, allora, il mio primo impatto con i giochi Lucas è stato quando avevo 8 anni, 9 anni forse. Il mio cugino me l'ha fatto vedere. Il mio cugino, esatto. Bene. No, il cazzo. Comunque. Specifichiamo. No, allora, è stato con parallelamente Day of the Tentacle e Indiana Jones The Fate of Atlantis, quindi due masterpiece, perdonatemi questo inglesismo, dei veri masterpiece della Lucas, che ricordo come giochi estremamente complicati, soprattutto Indiana Jones The Fate of Atlantis, ma con dei colori, delle trame, dei dialoghi estremamente... estremamente particolari, ecco. Questo per quanto riguarda i giochi quelli, gli storici, punta e clicca, eccetera. Devo dire che per i giochi su console avevo snobbato ad esempio Maniac Mansion, perché su NES ad esempio troppo difficile, tuttora troppo difficile. C'era anche un problema Maniac Mansion, cioè, nel senso, c'era una sorta di bug che in realtà, se non facevi determinate cose nel momento giusto, perché era anche pseudo temporizzata, addirittura non la potevi neanche finire, quindi, però vabbè, cioè, ma tanto io mi inchino quando sento parlare di Maniac Mansion, quindi. No, per carità, un gioco fantastico che però ho riscoperto in seguito, ecco. I miei primi sono stati sicuramente quei due, e sono giochi, soprattutto Day of the Tentacle, che ogni tot tempo riprendo e rigioco sempre e non volentieri. È invecchiato di... No, non è invecchiato di 5 minuti Day of the Tentacle, esatto. Forse neanche Indiana Jones, guarda, se non per qualcosina dove è un po' macchinoso, ma Day of the Tentacle secondo me è un capolavoro semi inarrivabile, anche perché comunque tecnicamente erano, ecco perché probabilmente no, quando i videogiochi cominciavano a costare veramente tanto, le avventure di Lucas erano avventure che costavano tanto e non erano proporzionate chiaramente al mercato che non avevano più, perché questo è, insomma, purtroppo è stato poi l'evoluzione, il segno dei tempi. Peppe. Ma io come giochi come avventure della Lucas sono più legato, vabbè, ho avuto proprio il mio primo contatto proprio con le avventure grafiche, quando mi regalarono, andavo mi pare ancora alle elementari, Zack McCracken, che è un po' considerata la pecora nera delle avventure, le primissime perché avventure io è della l'avventura Lucas che amo di più in assoluto, cioè. Sì, lo adoravo, ha segnato proprio alcuni anni della mia infanzia. E, oltretutto, ricordiamo, erano anche belle le scatole, se mamma vi ricordate, mia, delle avventure della Lucas, vero, che avevano poi anche quei bordi tutti particolarmente curati, le illustrazioni solitamente disegnate, almeno le prime, da Steve Purcell, che poi era quello anche di Sam & Max come disegnatore, ricordiamolo, di cui ho un poster autografato, sì, finito qui, ciao, wow. E poi avevano pure sempre sulla falsa riga delle avventure anni 80, all'interno, oltre vabbè ai codici di protezione, tutta una serie di materiale extra che ti doveva aiutare nel corso del gioco a risolvere alcuni enigmi, dove appunto c'era il famoso giornale National Inquisitor, per Zack McCracken, come se vi ricordate nel primo Indiana Jones, quello The Last Crusade, c'era il diario di Harry Jones, una copia diciamo del diario che poi riportava diciamo la soluzione di alcuni. E poi questa cosa la veniva proprio direttamente dalla tradizione dell'avventura, da Infocom e via dicendo. Esatto, dai Phillies di Infocom, esatto. Proprio detto, mi ha sempre appunto colpito Zack McCracken, anche perché diciamo una delle cose poi spiazzanti andando avanti nel gioco era poi che da un certo punto in poi potevi anche controllare più personaggi. Ovviamente non avevo ancora in quel momento scoperto Maniac Mansion, che è venuto subito dopo, e questa diciamo è stata poi diciamo anche un tranne è stata una caratteristica insomma che mi ha colpito abbastanza. Poi diciamo come altro gioco che ricordo e che insomma perché voglio vincere facilmente, voglio vincere in maniera facile, ovviamente Monkey Island il primo. Io la paura di citare Monkey Island non ce l'ho, perché vedo Zack, cioè Monkey Island, e ci sono delle qui mi sa che ci voleva Pierpaolo, lo so ci ho anche pensato, ma in realtà va bene. E Simone su Monkey Island? No, su Monkey Island. Qual è stato il tuo primo Lucas? Esatto. No, su Monkey Island, il tuo primo approccio con un gioco Lucas, come Monkey Island. È stato Monkey Island sul PC, perché io il PC l'ho preso tardi, è entrato nella mia famiglia tardi, e sull'Amiga non avevo idea di cosa fosse. L'hai adottato? Monkey Island. L'hai adottato? L'ho adottato, sì, sia all'età di 16 anni mi hanno suonato davanti alla porta, mi hanno lasciato. Dice, guarda, c'è questo computer, è arrivato tardi, ma è arrivato. Esatto. Sì. E c'era assieme pure la ruota, quella per performare i pirati all'inizio. Esatto. Sì, bellissimo. Lo vidi giocare da mio cugino più grande, che quindi lui sapeva anche cosa fare, perché ero quello che una volta è morto. Poi è morto, sì, poi l'ho ucciso perché. No, dico quello che una volta è morto. Ah, no, sì, da bambino sì, una volta sì. Morto, sì. Che sa anche un colpo segreto, che se te l'ho dato dopo 3 giorni muori tu. Muori. Esatto. E cominciamo a giocare col suo, invece. Quando ancora i provider era non mi ricordo il nome, quando l'internet costava 200.000 lire l'anno, Net Flash, non mi ricordo il nome, insomma, che fu rivoluzionario, perché c'era questo zio nerd che aveva il computer, aveva internet, capito? Cose che non si faceva niente, però. E mi ricordo che lo giocammo in due. E mi rimase impressa alla fine del 2. Non tanto per il finale, diciamo, quello della storia, che già era qualcosa, ma quello che succede sui titoli di coda, se vi ricordate. Sì, che dice sì, adesso sì, puoi, sì. La scenetta dopo che dice adesso di potete. Elenca, non so, farà un elenco di, non so, 102 cose che si possono fare. E poi spegni il computer. Esatto. No, sul serio, adesso spegni il computer. Sì, sì. Ti sto dicendo che devi spegnere il computer. E quindi io continuavo, stavo là, ho detto no, questo è tutto. No, ma comunque un po' tutte le avventure Lucas avevano in generale, a prescindere diciamo da queste cose simpatiche, proprio dei finali che comunque tu a distanza di giorni continuare a hanno pensarci. Portato un po' la scrittura della commedia americana di quegli anni all'interno del mondo dei videogiochi, mo' azzardo, no, però secondo me allora non si può prescindere dal fatto che Lucas, e questo infatti poi magari arriviamo al punto 2, però prima finiamo questa cosa perché pure Alex deve dire una cosa, non si può prescindere dal fatto che comunque loro venivano, cioè avevano veramente un bagaglio autorale, cioè potevano attingere a materiali che tanti altri non potevano, no? Chiaramente, cioè, non puoi escludere Lucasfilm Games dal fatto che comunque c'è il cinema dietro, quindi anche perché dal punto di vista anche dei dialoghi, della scrittura dei dialoghi, Monkey Island è un capolavoro che prescinde dal videogioco, tant'è che viene studiato ed è stato studiato anche per altre questioni anche nell'università, cioè nel senso è comunque una grande opera dal punto di vista della comicità, insomma, su tante cose. Esattamente. Quindi sì, vai, scusati, dico, hai ragione. E quindi questo è stato il primo approccio. E poi l'amore si è continuato con Day of Tentacle, che io ho giocato a dir la verità pochi anni fa, perché siamo nel 2013, nel 2006 l'ho giocato su PSP, dove lo scam andava benissimo, tra l'altro. E anche lì, come dicevo con Stefano, vabbè, insomma, non è invecchiato di un giorno, anzi dà ancora filo da torcere a parecchie produzioni dello stesso tipo attuali, insomma. No, più che altro parecchie produzioni attuali comunque prendono da molti elementi anche di enigmi da The Old Tentacle. Tanto per darti un'idea, anche l'ultima produzione, cioè autoreferenziale di The Cave, praticamente ha una serie di enigmi che pure in quel caso devi, alternando con i personaggi, portare avanti in tre ere diverse, esattamente. Vabbè, come era in Day of Tentacle. Tu considera, Peppe, che i giochi da Lucas sono sempre si autocitavano, sì. Cioè su Zack McCracken c'era il poster di Maniac Mansion, sì. Poi Guerre Stellari a tutto spiano, sì. C'è, trovavi sempre in Zack McCracken, tra, alla fine, su Marte, come tra gli oggetti, il carburante per la motosega, che invece si trovava in Maniac, sì, esatto, Mansion, se esatto. Vi ricordate. Ma poi ecco una cosa che per esempio mi piaceva delle avventure Lucas, che è proprio secondo me una delle caratteristiche che lo contraddistingueva da quelle anche dell'epoca, era fondamentalmente il fatto che non si poteva morire. Sì, sì, mentre appunto sì. Nella Sierra eccetera, o anche in altre, comunque, se diciamo magari potevi perdere, ricordo, oggetti importanti. Ti ricordo, esatto. Giuseppe, la grande chicca di Monkey Island, dove LucasArts prendeva, sì, per il culo Sierra. Perché c'è il pezzo in cui Guybrush può cascare dalla rupe, ti appariva la schermata come quella là classica di Sierra, sei morto, che fai, restore o poi invece non era vero niente, che è fantastica, perché io penso che lì veramente era un atto di presunzione anche, no, dalla parte. E però, poi, poi ricordiamo anche che la struttura proprio era molto aperta, cioè erano delle avventure dove tu comunque potevi portare avanti più, diciamo, obiettivi, cioè quindi che fondamentalmente ottenere un oggetto da una parte piuttosto che ottenere da un'altra parte, però potendo visitare un sacco di aree, cioè non era tipo molto molto lineare, dove comunque sapevi che dovevi prima ottenere per forza questo oggetto, poi quest'altro e poi quest'altro, potevi invece spaziare. Infatti Zack McCracken, sì, e Maniac Mansion erano difficilissimi, sì, sì. Cioè. Quello, ma anche ovviamente appunto lo stesso Monkey Island, dove per esempio nel primo atto potevi scegliere come portare avanti le tre prove. Esatto. Non eri obbligato, per esempio, esatto, per forza, per esempio, prima vincere il duello di spada, poi la caccia al tesoro e poi cos'era? Aspetta, oddio. Duello di spada, caccia al tesoro, il terzo. Di spada e di insulti. Vabbè, la terza, come stai a fare, che cazzo? Oddio. Cioè, fermi tu. Questa parte ne parliamo, se chi ci sente ci sta per uccidere. Vabbè. E il grog. Sì, il grog. Sì. No, per recuperare il grog. Sì, sì, sì, c'era qualcosa, sì, col grog, è vero. Dove recuperare il grog? Va bene. Simone, tu hai finito? Non lo contraddite, cazzo, basta. Dico sì. No, era caccia al tesoro e rubare un oggetto nella villa che è la scena fantastica. C'è la scena fantastica. Sì, quando lui entra, nessun che cane è stato sempre perché non, esatto, perché non andava contro la violenza. Anzi, c'era pure, mi pare, mentre li drogavi la scena censore. Sì, fantastico. Vai, Simone, tu hai finito? Io sì, no, dicevo appunto che loro tendevano, come dite voi, a fare un universo preesistente che comprende tutti i giochi, tutte le avventure, tutti i loro brand, come la vicinanza a Pixar, che compare pure su Wikipedia, perché prima di passare da Steve Jobs, Pixar era una branca di Lucasfilm, e come pure John Landis come regista fa nei suoi film che si autocita, questo tipo di impostazione. Io voi ci avete giocato, io no, perché The Cave non l'ho potuto giocare, ma è vero, c'è stato il distributore di Grog? Sì, sì, all'inizio. Ma ormai Grog, cioè ormai ci sono due o tre cose. Io per The Indie Shelter, il sito dove scrivo, dove tutto, li scrivi? Da noi gli articoli. Ho recensito un gioco italiano che si chiama Shadow of the Vatican. E a un certo punto tu devi fare un passaggio da una parte all'altra con una, tenendoti tipo con la cinta su sto filo, e dice: non sarà un pollo con una carrucola, però potrebbe funzionare. Dato che l'hai citato, saluto gli amici di Shadow of the Vatican, perché con qualcuno di loro sta per nascere, ovviamente lunghe mani di IPN, un nuovo podcast, grazie probabilmente anche con gli amici di Adventure Planet. Non so se lo dovevo dire già, però insomma lo diciamo. Esatto. E devo fare dei complimenti, che per essere un progetto italiano tutto sommato i miei ci si appassionano. L'ho finito l'altro ieri, è il secondo atto, sto curando tutti gli episodi. Poi magari dopo copiali anche su DVL quando ne capito. Ok. allora io dico la mia molto velocemente, poi passo la parola a Alex che... Sì, io sentire Alex. Ma io vorrei sentire Alex di più. Anche in altri conti tipo ci sento. Non chiami mai, lo chiamo a telefono, guarda, se poi te lo do il telefono di Alex. Sì, poi, sì, no, voglio proprio Alex. Ti vuole comunque. Anche io voglio. Comunque io ci ho sempre avuto sta fissa per le avventure testuali grafiche, poi insomma quello che poi ne è venuto dopo, e sempre avuto sta passione per la narrativa interattiva, ma soprattutto mi sono sempre detto sarebbe un fico se il videogioco prendesse un po' dal cinema, nel senso ci raccontasse storie un po' come il cinema. Ed è capitato che una volta, guardando Tandem, che qualcuno di voi, quelli più vecchi come me, si ricorderanno, era una trasmissione con Enza Sampo, Fabrizio Frizzi, Cazzi e Mazzi, che facevano sulla Rai quando verso il pomeriggio, era una trasmissione per ragazzi, e c'era un appuntamento fisso ogni X giorni, o non so se una volta a settimana, dove presentavano un videogioco. E nello specifico presentavano questo gioco su Amiga, e la prima schermata, e facevo vedere questa cosa dei Lucasfilm Games. E io già ero appassionato dei Guerre Stellari, quindi conoscevo Lucasfilm come marchio, no? Quindi come denominazione. E mi sono detto: ah, guarda che figata! E facevano vedere questo gioco che era Zack McCracken, e ti facevano vedere come funzionava, come si muoveva, perché c'è la storia, vedete, è molto. Però insomma, voi siete anche liberi, andate a pagare la bolletta, fate così, fate colà. Però insomma, c'è questa impronta cinematografica. E da allora mi sono innamorato, sono andato a cercare sto gioco per Mari e per Monti, fino a che non sono riuscito a giocarlo. Lo giocai su Amiga, tra l'altro. Infatti anch'io come Peppe, esatto, ho giocato prima Zack che Maniac Mansion, sebbene l'uscita è invertita, nel senso prima uscita. Sì, cronologicamente viene prima Maniac Mansion. E da lì è stato, cioè, nel senso, per me era una mania, nel senso, quando riescono nuovi giochi di Lucasfilm Games. E tra l'altro il terzo gioco, anche se in realtà sarebbe il quarto, perché prima di Maniac Mansion c'era The Labyrinth, che vabbè, possiamo più o meno considerarlo, ma era sempre comunque un gioco della Lucas, e fu un gioco su Indiana Jones, se non sbaglio, no? Indiana Jones. E lì per me è folgorazione, perché lì aggiunsero ulteriormente degli elementi alle loro avventure, a parte che graficamente cominciavano ad essere sempre più curati, e poi se su Zack McCracken il personaggio si muoveva, ma non è che faceva l'animazione tipo di scendere le scale, sempre camminava in pratica, no? Ve lo ricordate, si muoveva come uno spettro praticamente, insomma. Invece su Indiana Jones poi c'era l'aggiunta delle animazioni, e da lì ho capito, vedete, questo è il tipo di gioco che io amerò sempre. In effetti da lì in poi per me l'avventura grafica è stata sempre un... Ed ecco perché poi perché non è l'avventura grafica, non è che le faceva solo la Lucas le avventure grafiche, l'hanno fatte la Revolution, esatto. L'hanno fatte la Sierra, appunto, Revolution, Broken Sword. Benitez Sky, insomma ce ne sono state una marea, l'Interplay c'è stata la Delphin Software, ce ne sono state una marea anche Sierra comunque ha fatto dei bei giochi, però il modo in cui anche tecnicamente e anche dal punto di vista creativo faceva i giochi Lucas, per me, cioè, non... ed è per questo che quando in realtà il primo lutto è stato quando i grandi cervelli se ne sono andati, cioè lì è stato forse probabilmente il vero lutto, ma adesso è un po' quello che vediamo, è un po' la conseguenza. Insomma, vabbè, questo è stato il mio primo approccio, e vi ricordo che mi stimolò tantissimo, e da lì in poi io iniziai a seguire tutta la storia di Lucas, tant'è che io ce li ho avuti tutti i giochi, ed alcuni li ho giocati in tutte le versioni possibili immaginabili, tipo Loom, che è uno dei giochi che molti hanno sottovalutato o trascurato, magari perché comunque era un po' atipico, un po' particolare, era anche molto breve. Ma in realtà quando uscì la versione in CD-ROM con tutte le tracce audio doppiate, roba del genere, quindi tutta la recitazione in inglese, io sì, cioè giocai veramente tutte quante le versioni. E niente, questo insomma è stato il mio primo approccio, però so che Alex c'ha anche lui il suo aneddotino. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a, a voi che mi ospitate. Beh, sei il nostro regista, ciao, e sei l'autore della puntata, ciao, quindi... Ciao. Ciao. Ciao, ciao. No, è che avete tutti lo stesso nome tranne Stefano. Cacchio, sto per dire una cosa sbagliata, ho detto, poi dico direttamente Biggio. No, di Stefano, che è un così bel nome. No, no, infatti, però poi ci sei tu, c'è Paganini, cioè vi chiamate tutti allo stesso modo, è un casino per me. Biggio almeno è univoco. Era come a scuola, si chiamavano tutti Andrea quando esatto, per cognome. Esatto, esatto. No, io vabbè, non ho grandi cose da aggiungere, se non che vabbè, insomma, anche per me Lucasfilm Game ha rappresentato qualcosa di, cioè, una pietra miliare. Ma vorrei più che altro parlare non tanto di quello che ho provato io, perché ripeto, sono un videogiocatore di serie B mentre voi siete gli hardcore di vecchia data. Come è nata la LucasArts, Lucasfilm Game ab origine? Cioè, tutti sanno che è nata. Soltanto però se vi leggete la biografia autorizzata di George Lucas, quella che è uscita circa 12 anni fa. Ci siete ancora? Sì, ah, sì. Scusate, sì, vai, sentivo un silenzio. Stiamo ascoltando. Sì, scoprite che Lucas a un certo punto ha cominciato a fare i soldi con L'Impero Colpisce Ancora, che è stata una grande scommessa, perché lui fondamentalmente ha investito tutti i suoi soldi guadagnati con Guerre Stellari nel libro Complice Ancora, perché fondamentalmente diceva: voglio tenere i diritti, per cui non voglio che me lo producano gli altri. Il film è andato, a raddoppiato il suo budget durante la sua lavorazione, un film che è costato sui 35 milioni di dollari, che per oggi sono un film di serie B, neanche Twilight costa così poco, per farvi capire, il primo Twilight. Beh, tocca il sì, cambio sì, ma guarda che non c'è tanta differenza, non è come film di oggi. Vabbè, insomma, fondamentalmente fa i soldi e vabbè, diversifichiamo. Vede insomma il computer che comincia a utilizzare lui dalla parte creativa, perché infatti i primi computer per il controllo dei telecamere li utilizzano nella sua facility, cioè il controllo numerico delle telecamere, il motion control, l'hanno inventato per Guerre Stellari. Dice: c'è il computer che sta dilagando, mettiamo una zampa anche lì. Lui apre questa sottosocietà e dice alla gente che la deve guidare: non me ne frega un cazzo di software, non capisco niente, voi portatemi a casa dei soldi. Questa è stata la cosa geniale che ha detto. Non voleva, non gliene fregava niente di quello che facevano. Ha detto: voi non mi dovete toccare Guerre Stellari e dovete portarmi a casa dei soldi e io vi finanzio. Stessa cosa che poi ha fatto in seguito con quella che sarebbe diventata la Pixar. Cioè, nel senso, portatemi dei soldi, io vi finanzio. Lui ha finanziato, però la Pixar, che allora era Lucasfilm Digital, eccetera, eccetera, non gli portava a casa dei soldi. A questo punto l'ha svenduta a Steve Jobs, che 10 anni dopo, investendo, è riuscito a tirarsi fuori dei soldi. Ma la cosa interessante è appunto quello che diceva, che lui non voleva interessarsi del software, era una cosa che non gli interessava, e ha negato l'utilizzo di Guerre Stellari per fare software. Cioè, i giochi di Guerre Stellari che sono usciti a suo tempo, se non sbaglio, per accordi con la casa di distribuzione più che con i suoi, cioè nel senso Lucasfilm Game e poi LucasArts non poteva avere accesso a quelle property. Ne ha avuto accesso più tardi Jones, in teoria, all'inizio. Sì, però Indiana Jones è sempre stata una cosa un po' ibrida, cioè Indiana Jones sì, è sua creatura, ma è figlio suo e dell'altro amico, quello che fa volare i bambini. Sì, sì. E lo chiami tu così, l'amico di JJ, no? È stato diventato l'amico di JJ, sì, sì, esatto. Stiamo parlando di Steven Spielberg, per quei tre che esatto, non hanno capito, sì. No, parlo perché probabilmente la mia ragazza in ascolto e devo spiegargliele queste cose poi. E ripeto, per cui Indiana Jones sì e no, ma Guerre Stellari, finché a un certo punto hanno deciso che il mondo, e soprattutto il mondo dei videogiochi, stava diventando non dico preponderante, ma importante tanto quanto il cinema, prima ancora che lo superasse, allora lì le IP si sono un pochettino diversificate. Però è interessante sapere che appunto all'inizio lui diceva: portatemi a casa dei soldi, non me ne frega niente di quello che fate. E la cosa interessante è che, però questa è un'opinione assolutamente personale, è che anche i primi giochi, prima ancora delle avventure grafiche, ripeto, in 5 anni loro hanno sfornato tipo 8 capolavori, cioè, al ritmo di uno ogni 10 mesi, potete dirlo le vuoi. Io mi sono riguardato Wikipedia per ricordarmi le cose e sono rimasto con la mascella per terra. Tocca che non mi ricordavo che fossero usciti tutti insieme in così poco tempo. Cioè dal primo Zack McCracken, no, il primo ancora, cioè Maniac Mansion esatto, fino a Day of the Tentacle sono passati 5 anni e mezzo. Cioè, 5 anni e mezzo fa probabilmente c'era già Call of Duty, sì, e tutte le IP 87-93, esatto. Sì, sì. 5 anni fa, ripeto, c'era già Call of Duty, c'era già tutte le cose che utilizziamo, che sono di mainstream adesso. Per cui è interessante vedere lì come quanto sono riusciti a fare in così poco tempo. Però ripeto, ancora prima di questi, i giochi che avevano sviluppato erano comunque dei giochi molto interessanti, molto, molto, molto forti. A me viene in mente Rescon Fractalus, non so perché, non ci ho giocato, ma ogni volta che vedo quelle immagini dico: mica, ma che figata, era una cosa originale. E basta, questo era il mio piccolo. Sì, guarda, io te lo concludo velocemente. Ecco, magari facciamo un giretto proprio veloce dicendo che a Lucas bisogna riconoscere, Lucas intendo George Lucas, bisogna riconoscere grande parte dell'evoluzione tecnologica del cinema, perché comunque tante cose sono state sviluppate per le sue necessità o dai suoi laboratori. Quindi questo, e probabilmente alcuni, cioè in un certo qual senso possiamo dire la stessa cosa anche dal punto di vista creativo nei videogiochi, perché comunque sia il fatto di dare una certa tipo di libertà a certi geni, che veramente dei sperimentatori stavano là, quelli secondo me sono anche veramente divertiti a fare quello che hanno fatto. E una cosa che mi è venuta in mente adesso, ripensando al discorso di Lucas del passato, è che quando io compravo dei Games Machine KZ, TGM, sì, TGM, Zap e Batte la Pesca, e ogni volta che usciva un qualsiasi gioco che magari era figo, roba del genere, guarda che figo sto gioco, roba del genere, però io li andavo a comprare sempre e soltanto per un motivo, che era quello di sapere che cosa stava uscendo da casa Lucas nei prossimi mesi. E quando arrivavano le prime notizie, speculazioni, cose, roba del genere, ah, c'è il secondo Monkey Island, tutti quanti, però non ci stavano immagini, non ci stava niente, non si vedeva, oppure che il nuovo gioco su Indiana Jones, ed era, cioè, capito? L'hype che mi ha creato il seguire Lucas negli anni, a me veramente poche cose me l'hanno... Ma scusa se mi intrometto, Simone, ma io lo seguivo anche dopo l'uscita di un gioco, perché se ti ricordi in quel periodo in cui non c'era di fatto ancora internet, l'unica maniera per poter andare avanti, specialmente in un gioco che era fatto tutto di enigmi, era o conoscere qualche amichetto che era più avanti di te, sì, sì, e sì, l'aveva, sì, finito, sì, oppure aspettare la soluzione che uscisse. Ammettiamolo, perché cioè tu dici la soluzione oppure comprare, però è una cosa proprio rarissima, perché ovviamente per quei tempi era solo di importazione, perché loro facevano anche abbastanza reddito, anche cassa, anche con gli stessi Intbook che vendevano assieme all'uscita del gioco, diciamo l'antesignano delle guide strategiche. Qualcuno mi pare che Cintiola anche tradotto in italiano. Sì, sì, quelle di Monkey Island ce l'avevo tutte e due, mannaggia a me, non so che fine hanno fatto. Alex, scusa, vorrei aggiungere una cosa, sì, appunto, riguardandomi l'elenco, cioè pensiamo che Monkey Island 1 esce nel 90 e Monkey Island 2 nel 91. Questo significa, e considerate che allora i seguiti non è che uno li tirava fuori già di default. Hanno visto come è andato l'1 e hanno sviluppato il 2. Hanno sviluppato il 2 con anche le migliorie del motore, perché ce ne sono state tantissime migliorie tecniche. Anche del motore musicale, cioè, esatto, no, esatto. Live Muse, grande Peppe. Vedi che l'evoluzione dove stava il discorso. E l'hanno sviluppato in 8 mesi. Cioè, vi rendete conto, da scriverlo e svilupparlo? Oggi in 8 mesi probabilmente... non lo so, si fa il business plan di un videogioco. Questa è una cosa che mi ha veramente, quando ho visto questi dati, queste date, sono rimasto a bocca aperta. Cioè, allora veramente i videogiochi li sviluppavano un pugno di persone, ma tipo 5 o 6, e con questo riusciamo a tenere la struttura snella e a creare queste cose qua. Sì, ma poi io direi a questo punto, ecco, mi metto a eliminare un punto del perché anche sti cazzi. È bella sta conversazione come sta venendo fuori, cioè nel senso che alla fine se no diventa un delirio. Ma è possibile leggere i nostri ascoltatori in diretta se dicono qualcosa? Sì, ma basta che tu lo mangi, però, mentre questa che no, avevi un difetto di pronuncia. Era uno strano difetto. Infatti, di pronuncia. Comunque, quello che volevo dire, io mi ricordo i primi scan di Monkey Island 2. Allora, nuova tecnica, scenari disegnati a mano, dipinti e digitalizzati, 256 colori. Ragazzi, quando dicevo 256 colori, me coglioni, perché sembrava, capito, che era. Eppure questi con 256 colori ti hanno fatto quel gioco che era uno spettacolo, cioè a vederlo Monkey Island. Io me lo so riguardato nella versione ridisegnata, la versione deluxe, come si chiama, insomma, special edition. Edition, sì. E sicuramente è più bella, è più curata, la luce più dinamica, quello che cazzo mi pare. Però Monkey Island 2, sì. Ma anche il primo, cioè con quella sua palette di colori scarsi, quel blu, tutta la prima parte del gioco, roba già, cioè, io non lo so, cioè avevano veramente uno stile proprio anche nella grafica, nel disegnare, il modo di proporli, di... non lo so, comunque io mi ricordo i primi scan di Monkey Island 2 che ho visto sulle riviste, e dicevo, guarda, veramente, mi ricordo proprio la scena di lui davanti all'Argo la Grande sul ponticello con il coso là che c'è la lanterna e la sfumatura della lanterna, quindi dal giallo verso il blu, cioè veramente era un'opera d'arte, cioè cose... Ma poi più che altro, visto che siamo in tema, anche diciamo come mese, le avventure Lucas hanno fatto una cosa che almeno diciamo qua in Italia non era mai successo per altri giochi, cioè hanno pure dato avvio a quel fenomeno dei pesci d'aprile dei giochi, perché sono usciti ben due pesci d'aprile su due giochi, sì, di Lucas. Il primo era Zack McCracken 2 su Zap e poi su TGM il Monkey Island 3, sì. che non fu, perché poi fu un altro gioco, cioè, nel senso, sì. Mi ricordo c'era questo scan, questa immagine praticamente di Guybrush nello spazio che aspettava il taxi, se non mi sbaglio, una cosa perché praticamente usavano gli assets di X-Wing, esatto. E c'era tanto di scritto Made Monkey Be With You, possa la scimmia essere con te, facendo la citazione di Star Wars. Geniale. Eppure io non solo ci avevo creduto, ma ci avevo pure sperato, quindi era proprio, cioè, qualcosa di straordinario, ma perché, cioè, era così sentito, erano così sentiti i giochi della Lucas, ecco, bravo. Forse è qui. Allora, io saluto un nuovo redattore di Etnologia Videoludica, Cesare Giraldi, che è iniziato, insomma, da poco a far parte del nostro team, scriverà nel sito, poi non so, probabilmente qualche volta, se capiterà, lo porteremo anche in trasmissione. Lui ha 20 anni, ok? E io lo amo per questo, perché lui c'è questa cosa che dice, di molte avventure di Lucas ne ho sentito parlare, no? È chiaro che questi sono dei miti che anche oggi, no? Se ne parla, anche oggi se ne sente parlare. Però quello che a loro sfugge, alla generazione, no, è proprio quello che ha detto Giuseppe adesso, cioè quanto era sentito il gioco Lucas, quanto l'aspettavi, quanto andavi all'edicola a sperare che era uscita la rivista che speravi che ne parlasse, capito? E oggi ci sono i giochi che ti creano hype, che non vedi l'ora, li prendi al day one o roba del genere, però non so se questa cosa che hai detto Peppe, insomma, mi ha fatto un po' riflettere, non so, Stefano. Ma soprattutto, come scusa l'ultima, ma come ha detto anche Alex prima, sono stati tutti gli hype in quel quinquennio sono stati poi alla fine tutti ripagati, questi hype, perché hanno sfornato un successo, esatto, dopo l'altro. Non c'è mai stato un gioco che ha avuto un hype e poi ha detto ma che sta merda dopo che lo giocavi. Assolutamente, forse lo sai, e qui poi adesso poi ripartite magari Stefano, poi Simone, poi Alex, anche se vuole aggiungere un'altra cosa. La cosa che secondo me ha fatto incazzare i fan, proprio questo che hai detto tu adesso, che comunque i fan a Lucas l'hanno ripagata sempre, sempre, ok? Probabilmente non era sufficiente dal punto di vista finanziario, questo non lo metto in discussione, e questo atteggiamento che ci ha avuto Lucas a un certo punto di chiusura totale è una mancanza di rispetto verso coloro che comunque l'hanno sempre seguito e che comunque l'hanno sempre ripagata. Questa è forse la cosa che ha fatto incazzare di più. Poi probabilmente ecco perché molti, quando abbiamo pubblicato questa diretta, alcuni dicevano vabbè, ma si sapeva, tanto tu aiuta, vabbè, ma oramai non faceva più niente da anni e roba del genere. Sì, ma il problema è con noi, però sta con noi, che sento roba. Sì, no, è che sembra una bottiglia, perché io mi agito mentre che parlo. Vabbè, Stefano e poi Simone. Sì, che cosa vuoi sapere? Inserisci nella discussione, capisco che No, nella discussione io direi, bah, io forse passerei all'altro punto, sinceramente, a questo punto. Senti, Simone, allora. Sì. Simone, io mi piego alla... Ma guarda, io dico solo una cosa, contraddicendo un po' l'ultima frase che hai detto tu, è che alla fine decide lui... Decide un po' lui quello che... Cioè decide un po' Lucas e quindi il mercato, per cui c'è questo obbligo verso chi t'ha comprato. Tu non lo senti? Non è che non lo sento, lo sento, però capisco perfettamente che non è che puoi dire no, aspetta, cioè... io lo capisco, per carità, cioè capisco l'esigenza, ok? Però secondo me se tu sei intelligente, esistono certi momenti in cui vedi che una cosa non funziona, tu la blocchi in qualche maniera, ma non che la affondi o sì, che la affossi, perché veramente quella è una mancanza di rispetto. Cioè io glielo posso dire a stronzo, perché mi hai rovinato tre film che per me sono stati i film dell'infanzia, cioè capito? Io glielo posso dire. Ah, ma se tu t'allarghi, no, in generale il resto, è così, sì, capito? Sì. Ma anche Alien 4, io te lo dico che tu sei uno stronzo, cioè. E capisci? Cioè, nel senso, il 5, certo, te certo, dico che sei certo, il figlio della mignotta. Ah, vabbè, sul 5 certo, non esageriamo. E sul 4, io mi accanirei sul 4 come aborto venuto male, tra l'altro. Quindi, per il peggio, intanto li peggio, sono appassionati dell'ultima ora che invece lo stanno lo rivalutando, voglio, il 4. No, no, però c'ho della prima ora, ah, scusami. C'ho un caro amico che fece tutto, tu tra l'altro pure Green Fandango, che poi il quarto usava lo stesso motore di Green Fandango. Attenzione a quello che dici su Green Fandango, No, no, dico questa persona che è un mio amico, un mio caro amico che è appassionato dalla prima ora, quindi ha anche Green Fandango, si giocò anche il quarto, alla fine mi disse, ma sai che c'è comunque sempre quell'universo lì, quel mondo lì, cioè andava oltre, capito? Era proprio talmente appassionato che... È talmente appassionato. Ma il problema è che secondo me ha già Ibrahim si aggiunge la terza dimensione, già gli ha elevato la poesia in qualche maniera. Ma non perché voglio dire, le cose non devono andare avanti. Ma a parte che è una cosa che io dico sempre: cioè, quando una cosa è finita, lasciala stare. No? Cioè, già il terzo è stato, come posso dire, un azzardo. Non ti dico che non è stato un bel gioco, perché a me è piaciuto, però è stato un azzardo. Il terzo hanno dovuto cercare in qualche maniera di ricucire dopo che se n'era andato via già in libertà. Però il concetto ci stava, perché sì, riuscire a rendere quel mondo fatto ben definito, insomma, con una grafica che per i tempi fu l'audio, cioè l'audio da paura, ve lo ricordate la prima scena che ha battaglia con le cannonate, cioè sì, se c'ho io con l'impiantino Sound Blaster e cazzi e mazzi, cioè da paura sentiva, insomma. No, ma poi lo stile artistico del terzo ci stava tutto, sì, perché era proprio cartunesco, come caricaturale, come era anche Monkey Island, anche se poi era definito in maniera molto marcata, perché in realtà i primi due non erano proprio, cioè erano nel senso concettuale, ma non lo erano graficamente, insomma. Sì. Vabbè, Biggio. Beh, sì, io appunto passo la palla. Passo la palla a me stesso. No, passo all'altro punto, quindi quello che riguarda non solo le avventure grafiche, ma anche i giochi basati sulle licenze dei film, in questo caso quindi Star Wars e Indiana Jones, dove sono partiti con dei bei giochi. Io ricordo per Star Wars ad esempio Rogue Squadron, TIE Fighter, X-Wing. Allora, io ricordo in assoluto il gioco che mi fece comprare il CD-ROM, cioè Rebel Assault, ragazzi. Andiamo, cioè, che nonostante fosse, diciamo, la versione arcade di X-Wing, perché non aveva, diciamo, cose di simulazione, era più, diciamo, appunto arcade immediato come stile di gioco, però veramente come guardarsi un film di Star Wars, di fatto. Decisamente. E poi... scusami se mi interrometto. Rebel Assault non è stato mica il primo gioco che non solo aveva i filmati, ma aveva i filmati che giravano in una finestra più grande di quella dello schermo, in modo che tu ti spostavi, praticamente veniva sposata questo riquadro all'interno del filmato, in modo che c'era un minimo di movimento. Esatto. Spiegarlo così è difficilissimo, però insomma l'idea era quella che in video si chiama pan and zoom, ovvero sia praticamente zoomare dentro un fotogramma e spostarci. C'è anche Paolo Perini, ciao grande Paolo. Scusa, vai. No, no, niente, io mi ricordo questa cosa, la vedi a casa del mio amico che è Marco Re De Paolini, che poi è stato redattore di TGM per svariati anni, se non un decennio, e ci fece vedere questo gioco. Eravamo io, Max Svanoni, Fabio Simonetti, c'è tutta la cricca di TGM, e guarda sta cosa qua, e tutti a dire in milanese, perché loro non si usava dire me coglioni, che figata. Ma su Rebel Assault bisognerebbe fare un piccolo capitolo a parte, perché è stato molto sottovalutato, cioè nel senso, noi oggi lo vediamo e diciamo, ah vabbè, ma guarda la grafica spixellosa. In realtà all'epoca, anche avere il CD-ROM era diventato la killer app, sì, per, ma lo sai, eccellenza. Perché io sono stato, come l'ho raccontato nell'altra puntata, sono stato un acquirente di CD-ROM della prima ora, sì. I giochi, sì, full motion video della prima ora erano un quarto di schermo. Quindi Rebel Assault, in realtà, che c'aveva tutta una serie di magagne tecniche che riuscivano a potergli permettergli fare quello che faceva, ce l'aveva proprio perché c'era un lavoro tecnico dietro, con i controcoglioni, no? Nella compressione del video, nel fatto che in realtà quello che si muoveva erano, per esempio, la scena quella di Luke che esce fuori, no? Con le lune e roba del genere. In realtà lì la scena è completamente statica, la parte che si muove era quella intorno al personaggio, no? Quindi, però tu c'avevi il filmato in full motion video reale, pieno schermo, roba del genere, quindi c'era tutta una serie di cose che quel gioco ci aveva assolutamente impressionato. Questo era perlomeno a me, ed è stato veramente la killer app e forse è stato non il più bello dei giochi, perché poi X-Wing secondo me è stato un capolavoro, però è stato il gioco che mi ricordo con più attenzione, insomma, questo. Sì. Anche perché era bello difficile, mi ricordo, cioè quante volte la sequenza quella sul pianeta deserto, anzi no, sul pianeta di ghiaccio con i camminatori a TNT da evitare, quante volte l'ho riprovata a rivedere poi sempre i full motion video, e comunque non potevi saltare quelli tra un livello e l'altro, no, di gameplay. No, poi c'era tutto Star Wars dentro, quindi veramente ti ci immedesimavi proprio. Bello. Cosa che invece adesso in Star Wars non ti c'è medesimo, no, ma di Star Wars, sì, in Jar Jar Binks. Ma io io parlavo più che dei film, dei giochi non riescono a farti vivere l'avventura originale mai. Ma anche con, vabbè, scusate, posso fare una domanda, voi che siete un po' più esperti? Sì. Il gioco che ha sviluppato BioWare. esatto. Allora, aspetta, a proposito di questo, un ascoltatore mi ha contattato su Twitter e mi ha detto: mi raccomando, citate Mass Effect. Esatto. L'ho detto. Ciao, arrivederci. Vabbè, il Mass Effect che ha fatto BioWare sul mondo di Star Wars, no? Ma è vero che c'è sta un personaggio o una statua che ricorda Guybrush Threepwood? Perché questa cosa l'avevo letta da qualche parte e mi aveva sconcertato, quantomeno, insomma. Ma siamo sicuri di questa storia? Aspetta, vediamo. Ok, non lo pensavo che. Vabbè, la cerco io, voi intanto andate avanti. Sì, detto ciò, poi appunto, oltre a Star Wars, grandissimi giochi, unirei anche Indiana Jones. Avevano tirato fuori The Last Crusade. E per me, parere mio personalissimo, soprattutto The Fate of Atlantis, che sarà anche il fatto che era, appunto, come ho detto prima, uno dei primi giochi Lucas che ho giocato, rimane inarrivabile profondità di trama e come punto e clic, insomma. Scusa se mi intrometto un attimo, certo, Stefano. Prego. Ti ricordo tutto che per il film, quello L'ultima crociata, proprio per quel film LucasArts fece un esperimento e fece uscire ben due giochi in contemporanea. Vero. L'avventura grafica è una specie di arcade che diciamo platform, che era una cosa un po' indecente, se no, vi ricordate, indecente. Hanno messo insieme ET una nel cagata deserto in fondo. Esatto. e la versione che fecero per Game Boy era anche peggio. Sì. Poi in realtà Indiana Jones and the Fate of Atlantis andava a espandere praticamente all'ennesima potenza tutte le caratteristiche già presenti. E intanto vi confermo, Star Wars The Force Unleashed vi permetterà di vestire i panni di Guybrush Threepwood. Non è quello di cosa. No, vabbè, Forza non è il potere della forza, vabbè, quello però, è un action, un hack slash. Però, insomma, mi ero sbagliato col qua, però insomma la cosa l'avevo sentita, insomma. Ma l'importante era dire Mass Effect. Sì, tra l'altro è BioWare anche. Vabbè, continua Stefano. No, e quindi dopo fatto ciò hanno iniziato a sfruttare male la loro licenza, tirando fuori in primis un Indiana Jones 4 abbastanza discutibile, diciamo così, che ha decisamente polarizzato i fan in una maniera molto molto netta, ecco. Quindi cioè, stai parlando ora del film, però penso del film adesso. Ah, ok, sì, in questo caso Indiana sì. Jones è il, cos'è, il teschio di cristallo, sì, esatto, il teschio di cristallo, che questo, scusate, è il simbolo di quanto il cinema, il vecchio cinema, non è riuscito ad andare oltre, insomma. Sì. Loro potevano prendere il videogioco e farne il film, sarebbe stato un capolavoro, esatto, assoluto. Sì, punto. Sì, esatto. Ma in realtà non hanno prendevano dei Fate of Atlantis, cioè da parte che si era anche rumoreggiato tanti anni fa di un film con quella trama. E se fai un film con quella trama, io lo vado a vedere due volte al giorno. Il problema è che ci hanno fatto già il gioco. Invece hanno voluto soddisfare Spielberg e hanno fatto Indiana Jones e gli alieni, praticamente. Esatto, di cui non se ne sentiva decisamente il bisogno, avevano già una sceneggiatura in pronta. Anni che non si sente il bisogno di Steven Spielberg in generale, cioè detto proprio nella maniera più poi basta. No, ma è vero, cioè nel senso Spielberg oramai è veramente l'ombra di se stesso, è un uomo che se va in pensione invece di gozzarsi di cheeseburger e poi andare a fare i film, insomma probabilmente sarebbe molto meglio, nel senso che Indiana Jones ce l'ha sempre avuto il lato mistico, favolistico, esoterico, però era sempre tenuto, credo così, sempre a bada, no? E tant'è che tutto si distruggeva e quindi vaffanculo, non lo scopriremo mai, no? Invece c'è, cioè, questo film finale che vale solo per una scena, quando rotola il cappello e lui lo raccoglie per terra e c'è la musica, solo quello, il resto del film basta. Io quando rotola il cappello e lui lo raccoglie, se sente la musichetta di Indiana Jones, io ci ho avuto un brivido, poi ci ho avuto il brivido per altri motivi, perché veramente il film è veramente indegno, cioè, ma indegno come pochi, e questo è la mancanza di rispetto verso i fan, e questa è la mancanza di rispetto verso le opere che tu stesso fai, cioè, capito quello che voglio dire? E questo è un po' il mio punto di vista, perché cioè lui insomma, vabbè, dai, l'ho già detto, insomma, vai Stefano, scusa, poi fa parlare pure Simone, che giustamente io adesso vi aspettavo, perché vi ascoltavo, perché è molto interessante. E poi io dei giochi poi. No, perché non so più per culo. Anche perché io i giochi di Star Wars, a parte Rogue Leader Rogue Squadron, quello per Nintendo 64, sì, no, ma non era neanche male Dark Force, che praticamente cercò di prendere Doom, però ambientato nell'universo di Guerre Stellari. Esatto, ci riuscì in maniera molto figa. Assolutamente, eri proprio quando stavi soprattutto nell'astronavi, era proprio, stavi lì, sì. Cioè, veramente per un... No, io intendevo però per me i due, tra virgolette, capolavori, comunque le opere massime sono Rogue Leader e Rogue Squadron, quello su GameCube, che è Squadron, mi sa, sì. E Rogue Leader su Nintendo 64 furono, cioè per me fu la killer application, fu il motivo per cui comprai il Nintendo 64, anzi me lo feci regalare per i 18 anni, fu proprio la grafica e quello che vedevi, perché non so se vi ricordate, ma le prime scene sono quelle del film e sono riprodotte esattamente per segno, e solo che vedi quella parte rimani... I rumori, i modelli poligonali. Adesso se lo vedo oggi magari dico che è sto schifo. Io mi ricordo che ai tempi fu devastante l'effetto. Sì, ma guarda, proprio... che se oggi riguardi la vecchia trilogia, anche le scene aggiunte che hanno fatto, dici cos'è sta roba? Cioè, la Unreal Engine 2 le riesce a fare meglio, per dirti. Cioè, c'è stata una tale evoluzione tecnologica, per cui tutto sembra... Quello che ci sembrava figo adesso ci sembra veramente una scatoletta. Ed è l'unico motivo per cui gli indie, o comunque questi nuovi filoni paralleli, vanno molto di pixel art, perché invece quella non si è mai evoluta così tanto, perché si è passato dalla pixel art al cartone animato, la pixel art è rimasta quella. Io ho altre opinioni in realtà, cioè, comunque per me quello che è, se tu fai un gioco indie oggi, lo vedi un Sword and Sorcery, per dire, che comunque, vabbè, c'ha uno stile suo, però richiama molto quello che era Monkey Island, quello che era il vecchio, i 16 bit, per farti capire quello che era. Sì, anche se io penso che però le silhouette, la pixel art siano sì delle scelte stilistiche tanto quanto del vorrei ma non posso, per ovvie ragioni, no? Ma Però l'effetto è il triplo, cioè per me se tu mi fai un platform fatto in 16 bit così, cioè io vado vomito arcobaleni, piango arcobaleni, cioè, quelle che scelte è una cosa strana. Sì, no, nel senso a me piace oppure un picchiaduro a scorrimento laterale in 2D fatto con quello stile Double Dragon, quello che fu quella roba lì, cioè a me fa molto più effetto quello che il gioco in 3D che dopo tra 3 anni è vecchio. Cioè Metal Slug se lo gioco oggi continua a essere un giocone che c'ha 10 anni. Allora, io ne approfitto. Non so, sì, no, io in parte condivido, ma ne approfitto per salutare, per citare Mirko Pier Federici, che appunto di cui spesso vedo i suoi bellissimi disegni su Facebook. Lui ricorda un gioco storico, secondo me non mai sfruttato abbastanza dalla Lucas, ovvero The Dig, gioco spaziale. Con un'ambientazione spaziale con la sceneggiatura di Spielberg, esatto, però la sceneggiatura di Spielberg è fatta bene, cosa è la leggenda della sceneggiatura di Spielberg, sì. tra l'altro non viene neanche citato nei titoli di coda, sì, ma però mi ricordo dalle anteprime parlano di che era il progetto del cassetto, no, il soggetto era di Spielberg, il soggetto era di Spielberg, la sceneggiatura è di Gordon Scott Gard, se non sbaglio, che tra l'altro è un bravissimo autore di fantascienza. Io però posso giustamente dire una cosa, gli hanno detto è stato uno dei giochi che è stato molto criticato perché in effetti allora qui poi dopo si distingue il purista integralista da quello che poi ovviamente accetta un certo tipo di evoluzione, perché chiaramente anche le case che producono in qualche maniera devono sopravvivere. E nel tentativo di sopravvivere sicuramente LucasArts ha sviluppato un nuovo concetto, anche nuove interfacce, un'evoluzione dello SCAM, l'eliminazione dei verbi allo schermo, quindi c'hai una visione, una... Ma non solo anche, diciamo, c'è stata l'evoluzione dell'interfaccia, cioè dai primi fino a Manic Mansion, Monkey Island a The Dig, ma anche a livello di gameplay, se noti, era già un po' più lineare il gioco. Era già quasi la progressione quasi stanza per stanza, piuttosto che mi vedo assolutamente una decina di screen e faccio un po' quello che mi pare. Assolutamente sì, però è vero pure che i giochi cominciavano a costare più, nel senso che comunque The Dig, allora molti l'hanno, ribadisco, molti lo hanno criticato, per me è stato forse probabilmente per il tipo di atmosfera, qui stiamo parlando di atmosfera, non parlo di storia o di gameplay o di quanto è bello il gioco, però l'atmosfera secondo me è stato il capolavoro di Lucas, quello, perché comunque la percezione di mondo alieno, la musica e l'ambientazione in sé è stata particolare, cioè nel senso un film ci sarebbe stato tutto su una cosa del genere. Questo senza meno, cosa che non avrebbe potuto essere con le storie di Guybrush Threepwood, per dirti, cioè nel senso che The Dig per me è stato veramente un... E comunque sì, in effetti la situazione c'è stata tutta, ce ne stavamo quasi, non dico dimenticando, ma insomma no beh, appunto, grande gioco poco sfruttato, avrebbero dovuto farci un film anche su quello probabilmente sarebbe venuto fuori migliore dell'ultimo Indiana Jones, prego. In qualsiasi cosa viene fuori migliore dell'ultimo Indiana Jones, anche dei Super 8, vabbè, sta zitto. Comunque Simone, posso dissentire su una cosa, posto che a me The Dig è uno dei pochi giochi che io abbia mai finito e ho il CD della colonna sonora, bello. Per dirti, ce l'ho originale. Sentendolo in CD oggi ti rendi conto di come anche i suoni siano cambiati, cioè allora sembrava proprio una cosa di un'orchestra sinfonica, se lo ascolti adesso è proprio un sintetizzatore, proprio abbastanza sfigatello. Bella musica comunque. Io credo che però se facessero un film di The Dig verrebbe fuori un film un po' di serie B, perché secondo me era un grandissimo gioco, ma se la stessa sceneggiatura, la stessa recitazione venisse messa in un film apparirebbe un po' banale. Troppo sopra le righe, forse. Sì, non troppo sopra, ripeto, guarda tutti i film tratti da videogiochi che hanno fatto, dove praticamente... E questo è, ma perché i videogiochi sono film di serie B, ragazzi. Ma bastava fare un... È la base proprio che... No, allora, prendi la vecchia Lucas che fai film fighi, prendi la vecchia Lucas che fai giochi fighi e fai fare il gioco figo alla Lucas figa. E ti viene fuori un film figo. Né più né meno. Ma guarda, è un sillogismo aristotelico quasi... No, poi poteva venire una cagata comunque, però non è quello il problema. Non si presta perché vengono scritti con intenti diversi. Vabbè, questo sì, poi sì, però aspetta, un'altra questione, però era un soggetto per qualcosa che non era un videogioco, eh? Cioè il soggetto esisteva. Sì. Ok, quindi sì, ma come, cioè, ci metti i personaggi e fa un'altra cosa, perché che senso c'è, risolve gli enigmi, ma che cazzo c'è, film, gente, cioè, ovvio, non... cioè una cosa che è nata specificatamente per essere un'avventura grafica, una cosa è un soggetto, quindi una bozza narrativa che nasce per essere tutt'altro, che tu la puoi adattare ad essere un'avventura grafica, così come lo puoi far diventare un film, perché poi ovviamente la trama nasce in realtà anche nei film di Steven Spielberg c'erano gli enigmi, se tu vai a vedere, perché era proprio il tipo di concezione dei film. Indiana Jones deve mettere il paletto nel punto preciso dove passa il sole, perché se non c'è quella luce precisa non riesci a sbloccare la tomba, cioè vedi, alla fine paro ma da una parte tu sei spettatore, lo so, però paro quello che tu hai visto lì te lo sei riportato nei videogiochi, eh? Cioè sì vabbè, magari sì, è complesso. Comunque sì, sì. Vabbè, c'è chiaramente un po' più, però vabbè. Vai. Poi, a parte ciò, sì, ecco, non so se poi altri vengono in mente, altri giochi, appunto. Beh, poi sono finiti, soprattutto. Per... No, dico, soprattutto quelli successivi, quindi nell'ultimo periodo, tolti quelli di Indiana Jones, non ne sono usciti altri, ma quelli di Star Wars, io per ultimo cito la sei deprecabile Star Wars Kinect. Che è prima di arrivare a quella, aspetta, però quello che c'è di mezzo, non c'è già un altro po' di roba in mezzo. No, ma perché, dico... perché ricordiamoci che praticamente aveva già abbiamo già superato il 2000, siamo primi anni del nuovo millennio, e praticamente era già quasi cominciato il boom pure degli MMORPG, e prima di Old Republic ci aveva già provato sempre LucasArts facendo Star Wars Galaxy, se vi ricordate. Sì, vero, anche quello non durò neanche tanto. Grande hype. Esatto. Questo poi, se vi ricordate, abbiamo avuto pure altri giochi come per esempio Star Wars Republic Commando. È incominciato anche dal 2005 in poi la Lucas a dare, diciamo, il brand di Star Wars su licenza ad altre software house, come per esempio Traveller's Tales, che ti ha cominciato a fare tutta la marea di giochi di Lego Star Wars, se vi ricordate. Sì, vero. Quindi diciamo è stato sfruttato proprio come il porco che non si butta via. Io però vorrei niente, citare insomma, due Star giochi Wars. Che diametralmente in maniera opposta secondo me hanno segnato la storia del videogioco. Uno è quella specie di platform che hanno fatto su Indiana Jones, non so manco come si chiama, è quello in 3D, non parlo quello uscito ne uscì uno insomma molto più in là, insomma, veramente l'ho praticamente dimenticato. Era Indiana Jones and the Diabolical Machine, qualcosa del genere. Sì, è vero, qualcosa del genere. Infernal Machine, sì. O Diabolical. E poi forse il più bel gioco della BioWare. Che è ovviamente KOTOR. Insomma, che sì. KOTOR 1, chiaro. Knights of the Republic, che secondo me è il gioco di ruolo così come Mass Effect non è riuscito ad essere, ma chiaramente perché sono anche tempi diversi, insomma. Sì. Detto, non lasciamo questi momenti di vuoto radiofonico. No. Nessuno parla. È bello perché siamo. No, c'è da dire che in realtà di mezzo, dopo queste cose, intervallava pure, diciamo, delle tra virgolette nuove IP slegate da ovviamente il brand Star Wars, che non erano però ovviamente avventure grafiche, ma giochi di altro genere, perché ricordiamo, se vi ricordate, anche aveva fatto LucasArts Fracture. Fractures, sì, se ve lo ricordate, sì, sì, sì. E poi anche la serie su PlayStation 2, cos'era? Mercenari, se vi ricordate, sì. Mercenaries, che non era, era la anche merda, quella. Dimenticabile, sì, diciamo. Esatto, dico. Comunque diciamo, cercava di sperimentare, ovviamente buttandosi su altri generi con nuove IP, anche se alla fine si risultavano fallimentari. Benissimo, io poi direi, se non avete altri... Poi se vuoi parlare ora di Kinect, se Star Wars Kinect è libero... Ah, non ho molto da dire. Io l'ho provato pure, è veramente... No, l'ho provato anche io, è come, non lo so... dare pugni a un'aria, all'aria... Ma scusa, Mercenaris non era Pandemic? Sì, ma su licenza l'aveva comunque licenziato, mi pare... Ah sì? Sì. Ok. Sì. Vabbè, comunque quella cosa di Kinect. No, vabbè, non ne voglio parlare, non provate, non avvicinate anche se avete Kinect, perché davvero da. Beh, però la presentazione abbiamo tutti sbagliato. Sì, sulla presentazione anche mi aspettavo grandi combattimenti. Dai, è un altro modo per rovinare un. Vabbè, te perché sei nero nel cuore, sei scuro, sei un Nazgul, cioè Nazgul, Art of Darkness. Eh sì, ruba l'anima, ruba la gioia. Ricordiamo che Kinect, tutto Star Wars, è sviluppato da Terminal Reality, che recentemente hanno fatto uscire pure quel grandissimo gioco che è Walking Dead Survival Instinct. Ah, di cui sentivamo tutto il bisogno. Sì, sì, sì, sì. La risposta alla domanda mai. Esatto. Comunque, a parte ciò, io direi di passare all'altro punto, quindi forse il punto focale, perché, diciamo così. Esatto, visto che la Lucas non era più in grado di stare al passo coi tempi e aveva dalla sua dei brand, dei franchise su cui lucrare in maniera abnorme, perché altro non si può definire, dato che la schiera di fan di Star Wars è gigantesca, e poi anche quelli delle loro avventure c'è tuttora, quindi, e continua a dare soldi a Tim Schafer per fare giochi su Kickstarter, esatto. Quindi non sono pochi, e perché non hanno proseguito la strada di eventuali remake, alleanze con i vecchi della Lucas, e perché quali sono i motivi quindi della cancellazione di questi prodotti, che sicuramente qualche dindino l'avrebbero portato nelle casse della Disney in questo caso, perché hanno bloccato tutto, hanno tenuto tutto sotto chiave, diciamo. Io partirei da Alex Racuglia per rompergli le palle. Sì, mi interessa invece parlare di Alex. Mi stai rompendo le palle, sì, perché veramente mi ero addormentato un attimo. Vabbè, lo sapevo, io ti capto. Ah, gli sei andato proprio un peccazzo. Allora guarda, fai partire Giuseppe mentre Alex se la legge il punto. Sì. Giuseppe, allora, esatto. Io quindi Vai. No, riassumo velocemente appunto quelli, sì. Perché non hanno sfruttato bene, secondo te, perché non hanno sfruttato bene i loro brand, è perché non hanno chiuso il tutto, al di là dei motivi che hanno dato loro, che insomma io non prenderei per oro colato, ma insomma, quali sono le tue opinioni, anche se potresti anche essere completamente d'accordo con loro, credere a tutto quello che hanno detto, nel senso, io non ho la verità in tasca, quindi vabbè, non... neanch'io non posso parlare, no, però almeno da Lucas, sì, infatti, però no. Insomma, ognuno da videogiocatore, da Giuseppe Saso, puoi dire la tua, quindi quello sì. Prego. Secondo me in realtà hanno fatto per certi versi bene, visto comunque il risultato che nel frattempo ottenevano con licenze che in realtà sarebbero dovute essere più lucrative, cioè che insomma, che comunque più di richiamo, perché insomma una cosa dici, ti ricordi l'avventura di Guy Brush Tripwood, e un'altra è facciamo il gioco di guerra, un altro gioco ambientato sull'universo di Guerre Stellari, no? Sì. Quindi è più di, ovviamente, una questione anche di richiamo, no? Anche perché abbiamo fatto già un salto temporale di praticamente una decina d'anni ormai, e quindi ormai Questi titoli, sì, vabbè, vengono ricordati con nostalgia, ma non ma nel frattempo anche lo stesso genere non ha cioè è passato in secondo piano rispetto ad altri generi emergenti, quali appunto possono essere stati FPS o strategici, insomma, quindi per certi versi è un bene che non hanno voluto anche toccare e ripescare certi brand. Certo che una cosa che magari avrei preferito è almeno da questo la butto lì come vecchio retro gamer e diciamo mi sarebbe piaciuto che avessero continuato sull'onda appunto delle edizioni speciali, quindi di questi remake rifatti dei due Monkey Island anche con tutte le altre produzioni delle avventure presenti nel catalogo della Lucas. Che insomma questa cosa, anche perché di mezzo c'è stato pure nel frattempo l'avvento di nuove di nuovi dispositivi, quali per esempio pure i tablet, i smartphone, oltre a Monkey Island non abbiamo visto nient'altro su iPad, Android. Sì, però quant'altro. In un periodo come questo, dove non soltanto grazie allo scam, gli emulatori o roba del genere, ma comunque io vedo anche su Steam o sui dispositivi mobili un revival di vecchie avventure, anche perché sono magari comode o sono divertenti da giocare sui dispositivi mobili, visto e considerato che non richiedono neanche hardware particolari. Io non riesco veramente a capire. Sì, considerando che insomma non ci vuole, cioè anche tecnologicamente, anche se non vuoi, l'hanno fatto per esempio su App Store per avventure non Lucas, come per esempio Simon Sorcerer oppure Flight of the Amazon Queen. Basta che metti un wrapper che praticamente ti trasforma i comandi del mouse in quelli touch, senza volere per forza ritoccare ma ha messo in un concesso che vogliamo anche dargli un ritocco oggettivamente, sì. Qual è il problema? Io questa non, è una cosa che veramente qui c'è, entriamo proprio nella logica commerciale perché secondo i loro calcoli probabilmente la fatica, che poi appunto non era neanche tanta, in ogni caso non avrebbe avuto i margini di ritorno desiderati. Qui io invece inserisco io, secondo i loro calcoli, infatti io vorrei vedere le operazioni dei due Enhanced Edition dei due Monkey Island, sì, venduti online sugli store di ogni dispositivo possibile e immaginabile. Voglio vedere se non gli è ritornato quei quattro spicci che hanno dovuto spendere per fare sto remake. Infatti. Perché poi, dimmi, sono chiaro, cioè lì hanno riportato in alta definizione, rielaborato un certo tipo di grafica, ma non è che hanno dovuto fare sto lavoro, capito? Cioè, Simone, io parlo per esperienza diretta. Io mi sono occupato tempo addietro della versione della localizzazione del gioco The Last Express, non so se voi conoscete. Sì, quello, ecco, di Mechner, sì. Quello, esatto, di Mechner. Quando è toccata l'Italia, la casa produttrice era fallita. Questi ci hanno portato gli hard disk, la dump degli hard disk della sede, perché non c'era più nessuno, detto, e ci hanno detto fate quello che potete, come non esiste modo, questi sono i sorgenti, arrangiatevi. E noi abbiamo fatto reverse engineering ad cazzum, cercando di trovare il modo prima di compilare quella roba e dopo, una volta che siamo riusciti a compilare l'inglese, di tradurre le stringhe in italiano. Non è stata una cosa facile. Ora vabbè, quella è stato un esperimento fallito, eccetera eccetera eccetera. Però un conto è costruire un wrapper per lo scam, e vabbè, un conto è mettere mano agli oggetti reali. Non ci sono gli strumenti per farlo ancora? Cioè queste cose probabilmente le compilavano su un PC dell'epoca, su cui girava il DOS 4. Cioè adesso siamo con Windows 7, se non con l'8. Cioè esiste un modo per far girare questa roba oggi, roba che era pensata 20 anni fa? Lo fanno, non è, lo fanno gli altri, perché non lo può fare Lucas? Allora io ricordo una versione fatta da un utente quasi, The Flight of the Amazon, esatto, Queen su iPhone, esatto, che non è che sia estremamente precisa né ben fatta, mm-hmm, però è una cosa fatta da un utente solo che poi l'ha messo in vendita, adesso non mi ricordo com'è che sia bene la questione, l'ho provato, era un po' buggato, però funzionava, non è che abbia fatto questo grande lavoro, secondo me con un minimo di impegno fatto da un team di persone un po' valide, e per team parlo che dico che possono anche essere due, sì, le persone, ma guarda, io ce trovo, la si fa, ecco, trovo che sia più facile trovare il nerd pazzo che fa reverse engineering piuttosto che andarlo a comprare sul mercato del lavoro. Sì, però, quello è probabile, non è stata rispondere però alla domanda, la domanda è l'altra, e la domanda è Broken Sword in alta, sì, definizione, Deluxe Edition su iPhone, mm-hmm, sui dispositivi e su, fa cagare, c'è? Lascia perdere, cioè, se, sì, c'è, sì, se fa cagare, sì, c'è? Sì, sì, sì. Io, okay, sto giocando Benita adesso, Sky, cioè, su Steam, sì, se comprano, se compra Amazon Queen, sì, se comprano quell'altro Lure, sì, of the Tempest, perché, sì, sì, qual è il problema? Cioè, qual è il problema che c'ha Lucas verso prodotti che comunque la gente fa piacere di comprarsi? Perché comunque giocarsi, o per quelli come me, dell'età mia, magari è comprare e tenerli lì, nel senso, comunque ce l'ho. Sì, però sai cos'è? Secondo me, ma ci saranno pure le cose di diritti. A parte le cose di diritti, secondo me, cioè, nel senso, mica tanto. Mica tanto. Secondo me, queste cose sono dei diritti, ma non è solo questo. Se facciamo, appunto, venite a Steel Sky, la rifacciamo esattamente così com'era, lo buttiamo sul mercato, quattro sfigati, va bene. Lucasfilm non può permettere, LucasArts o quel che come Disney, come cavolo si chiama, non si può permettere di buttare sul mercato un prodotto che non sia più che perfetto, più che al passo coi tempi. Per cui probabilmente il costo di trans sviluppo, non di sviluppo, è molto maggiore. Cioè, secondo me, se appunto, fare reverse engineering e fare qualcosa, l'Est Express c'è, io l'ho regalato alla mia ragazza su iPad. È fantastico. È praticamente identico allora, ma è un gioco ingiocabile oggi. Sì. Cioè, non è va bene come revival. Però secondo me l'hanno comprato tutti quelli che l'hanno comprato allora, perché era un gioco straordinario. Cioè, c'era grande recitazione, la storia era molto bella, c'erano 7-8 finali diversi. Adesso mi ricordo che li abbiamo giocati tutti poi, ovviamente, per fare la release. Il test. E poi, ripeto, allora aveva senso se oggi uscisse The Fucking Express, che ne so, ripeto, e fosse esattamente così, non se lo giocherebbe nessuno, non gliele fregherebbe niente nessuno, sarebbe un gioco da zero. Per cui, ripeto, di Lucas prima, che però comunque era già una corporation di suo, Disney adesso non possono permettersi di far uscire Monkey Island esattamente com'era, perché sarebbe un gioco ingiocabile per gli standard odierni, e probabilmente non c'è il modo di trans svilupparlo in qualcosa di moderno. Non lo so, queste sono le mie idee. L'hanno fatto. Cioè, hanno fatto la Deluxe, cioè la Enhanced Edition, la Special Edition. No, Special Edition. Che bella, sì, perché tra l'altro, allora, me lo gioco nella nuova versione in HD, la grafica tutta rifatta, bellissimo, no, bel, se voglio lo switcho, me lo gioco nella grafica vecchia. Se voglio metto il commento di Ron Gilbert che sa ride con quell'altro. Ah, ti ricordi a questa scena qui ci siamo sputati addosso mentre che la scrivevamo? Cioè, ci hanno addirittura inserito pure la possibilità di visionare i punti chiave dello schermo con cui interagire, e addirittura pure il sistema in game di suggerimenti, cioè ci hanno dato praticamente il nostro, sì, ci hanno lavorato, poi cioè, chi l'ha lavorato? Mica l'ha lavorato Lucas, sì, sta roba, No. Non hanno, loro hanno detto, pure Telltale, mm-hmm, e compagnia bella, e hanno detto, facciamo un accordo, mm-hmm, dai, noi ci riprendiamo, sì, sì, un po' i vecchi franchising, ci lavoriamo sopra, mm-hmm, e facciamo Tale of Monkey Island, facciamo l'edizione speciale di Monkey Island 1 e 2, e ok, a Lucas non gli è costato niente sta storia, ragazzi, cioè, è proprio un'ostinazione politica, per qualche ragione, politica intendo come politica aziendale, per qualche ragione, di voler tornare indietro, tant'è che è stata una scelta di una direzione amministrativa di Lucas, che subito è stata fatta sparire, cioè, gli ha detto, senti, tu te ne vaffanculo, perché a noi sta cosa non ci sta bene. Cioè, è proprio una cosa insensata che io veramente non... quasi come l'orgoglio di non volere ammettere di avere sbagliato. Esatto, bravo, può essere anche quello, cioè ci sto, se tu mi dai questa spiegazione allora la accetto pure. Ma se tu non mi dai una spiegazione e mi dici ah sì scusate, abbiamo pubblicato Monkey Island 1 e 2 Deluxe Edition, è andata talmente bene, però sono contento che i fan sono contenti, però basta. Cioè perché basta? Basta perché in fondo basta. Allora, le motivazioni della Lucas. La prima è stata, leggo e traduco dall'inglese direttamente. Brividi. Dopo aver valutato le nostre posizioni nel game market, abbiamo deciso di spostare LucasArts da uno sviluppo interno a un licensing model, a un modello su licenza, minimizzando i rischi della compagnia nel ottenere un portfolio più ampio di giochi di Star Wars. Questa è stata la prima cosa. Io qui cito un mio amico, specificano proprio Star Wars. In questo caso di Star Wars. Io qui cito un mio amico Lorenzo Petrone, che saluto, che ha fatto un post interessante nella sua bacheca di Facebook, quindi una cosa molto tra me e lui, e sono anche molto d'accordo con lui, perché dice che secondo lui sviluppare i titoli internamente produce sempre qualità assai maggiore rispetto al farli sviluppare a terze parti, quantomeno a parità di capacità del team. In particolare, proprio le licenze cinematografiche sono sempre state... Potremmo citare pure la Obsidian, insomma, no? Tanto per... Esatto. Poi continua, in particolare, proprio le licenze cinematografiche sono state note, sono sempre state note come delle ciofeche incredibili, in gran parte a causa del costo della licenza, che sarebbe invece che poteva essere utilizzato al contrario nel team interno, quindi per creare più potenza nel team, più mezzi, più tutto e così via. E continuano quindi la Lucas a dire noi abbiamo come risultato di questo cambiamento abbiamo appunto spostato un po' la gente all'interno dei team e abbiamo apprezzato tantissimo questi nuovi team uniti a quelli vecchi per produrre dei nuovi titoli. Non è, qui dice, non rende, chiudiamo, è comprensibile e in certo modo quasi accettabile. Il problema è che qui dicono siete bravi, chiudiamo. Dice, in questo caso siete bravi, chiudiamo, è pregare che ti sia fatta violenza fisica, tortura e crudeltà. E poi conclude, questo è l'ultima cosa dicendo, poi sono d'accordo con chi dice che Lucas sia stata una puttana, non c'è dubbio, ma non è questo il punto. Sono perfettamente d'accordo con Lorenzo e sinceramente appunto hanno, secondo me, utilizzato delle motivazioni un po' troppo generiche e hanno dimenticato tutto quello che c'è stato nel mentre praticamente. Cioè, siamo arrivati, hanno detto motivazioni da paraculo praticamente. Sì, è decisamente da paraculo e stupide. Ma tra l'altro la domanda perché la domanda è comunque ok, allora ammesso e non concesso che un team esterno ti costa di meno, i team esterni ci stavano, le proposte gli hanno fatte. Ma magari lì poi esce Monkey Island e Telltale, che voglio dire non è proprio che risplende per... No, ma è sempre meglio del 4. Esatto. Cioè. Grazie, pure se lo faccio solo. Ma non so, non sarei così negativo. C'ha un certo... Ma no, da come ne parlate, io il 4 non ho visto i tre pezzi. No, io l'ho giocato, l'ho finito perché amo Monkey Island, ma è stata una prova d'amore nei suoi confronti. E io penso che nonostante tutto il grande amore non ci sono manco riuscito a finirlo. È comprensibile, C'è stato un punto in cui mi sono chiodato, ho detto senti, io sta cazzata, ma sì, sta cazzata era un bug continuo quel gioco. Sì, Simone Pizzi ha rosicato, ma lo capisco bene perché quel gioco lì, anch'io mi ricordo, forse una volta avevo anche perso il salvataggio per un bug, o mi ero bloccato, ma proprio incastrato per un bug del gioco, insomma, è una cosa che poteva essere fatta meglio. Nonostante tutto, dando nuova linfa vitale al team della Lucas, facendogli sviluppare i giochi per i quali sono diventati famosi, secondo me potevano tirare fuori ancora delle buone cose, potevano chiudere il tutto magari dando una spiegazione anche di tipo economico, cioè noi chiudiamo perché magari questi non stanno facendo niente, sono come una foglia morta per la pianta Disney, diciamo, noi li tagliamo è finito lì, però qui sono rimasti un ragazzi. Scusa Stefano. No, vai, scusa, Stefano. Concludo velocemente. Qui invece sono rimasti nel limbo del no, no, tranquilli, i giochi ve li facciamo. Oh, pieno di brava gente, li abbiamo licenziati. Esatto, cioè... Oh, comunque tutti bravi, bravi tutti. Siete licenziati. Cioè, però ragazzi, se, cioè, secondo me va un po' anche da sé, perché se il principio è che a Ville Lucas non gliene è mai fregato niente, neanche quando... Sì, questo è vero, questo è vero. Quando, ma quando la sensazione è sempre stata. Gli unici a cui fregava erano Gilbert, certo. Schaefer e i team. Una volta andati via loro, che tu tieni in piedi un'infrastruttura del genere... E la passi a Disney, che capirai, gliene frega ancora di meno, visto che chi fa i videogiochi ce l'ha. E comunque sono per altri, anche per altri target. Cioè non, no, puoi, poi io mi ricordo c'è stata una questione. Punto. Vabbè, a parte Gilbert e compagnia bella, cioè alla fine LucasArts era, cioè era la loro creatura, no? E questo è abbastanza indiscutibile. Tra l'altro mi ricordo c'era un aneddoto che lessi da qualche parte, dove proprio Ron Gilbert, se non sbaglio, l'aveva raccontata, che siccome che loro sapevano che quando progettavano un gioco disegnavano tutti i bozzetti e poi andavano all'amministrativo, che l'amministrativo insomma per default gli chiedeva l'eliminazione di almeno il 30% delle scene, allora loro disegnavano tipo il 30% delle scene in più e le integravano praticamente in tutte le scene che loro avrebbero voluto. Dicevano cancellate il 30% di scene, non importa quali, perché per rientrare nei costi. Quindi c'era pure questa cosa, insomma, che poi in realtà, cioè, loro sa comandavano là dentro, cioè erano i padroni fondamentalmente. E allora perché non fanno un team? Vabbè, non avrebbero i c'è lo stesso problema. Il problema ad esempio è che Ron Gilbert, ok, The Cave, bisogna vedere poi il team che c'ha sotto, ha fatto sta cosa che è veramente molto particolare. Ho letto delle recensioni, tra l'altro, veramente molto belle, però, cioè, voglio dire, gente pure che stata ferma. Sì, no, quello è vero, sì, però considera appunto che se i grandi comici, i grandi autori hanno un decennio in cui sono creativi, esprimono il meglio, poi dopo nella loro decadenza, sai, dopo 15 anni il mondo è cambiato, l'umorismo è cambiato. Ah, questo è verissimo, però secondo me... Però Schaefer c'ha Double Fine, sì, no? Sì, sì, qualcosina poteva... Beh, c'è da dire, ma che secondo me qualcosa Gilbert cambierà, era entrato nella Double Fine e poi se n'è andato. Cioè, è entrato ed è uscito nella Beh, Double Fine. Ha fatto Fine. Tutti i piccoli... Ha fatto cioè, Death Spank, Gilbert, e doveva far uscire altra roba. No, io parlo di Stack... Ah sì, dici piccoli giochi, cioè, delle... Ma sono piccoli, sì, cioè, esatto. Sono bomboniere, pure come immaginario sta avanti, sì, ancora. E ecco, allora io mi collego adesso a quello che ha chiesto. Intanto, Mirko, Umberto Princeri, salutiamolo chat. E salutiamo anche Monica Neddi che sono entrati. Salutiamo. Vai, scusa. E ne approfitto quindi dicendo, lui chiede Mirko come la questione dei diritti, tornano i creatori o sono in vendita? Perché non escludere roba del genere in futuro? E ne approfitto per questo, poi chiedo a voi, io non ne so niente, quindi chiedo a voi se sapete qui entriamo qualcosa. Nella parte ostica, secondo me, sì. Ma proprio così, cioè sapete qualcosa sui diritti? Sì, no, punto. Per tirarla troppo sulle lunghe. Che ad esempio il problema c'è anche con le licenze di The Neverhood, un gioco che io adoro, storico gioco punta e clicca, fatto tutto in clay motion, quindi con la creta. Sì, è vero. In quel caso lì io leggo spesso degli interventi dell'autore che dice che vorrebbe far uscire altre cose, però i diritti sono della DreamWorks, i diritti dei personaggi di Clayman, il protagonista, e un altro, forse un altro personaggio ancora, sono della DreamWorks e lui non può far uscire altri giochi di The Neverhood a meno che la DreamWorks non decida di farli uscire. Dice che lui avrebbe anche tantissime idee a disposizione, ma non lo può fare. Quindi un problema potrebbe essere questo, cioè... poniamo anche il fatto che il team voglia tirar fuori qualche cosa da queste licenze, da questi personaggi, abbia qualcosa in mente. Magari adesso la Disney non gliele dà più, o la LucasArts non gliele ha mai date in seguito, perché non lo so, magari non credeva nel progetto o cose simili. Per quanto riguarda i diritti adesso, qualcuno di voi sa che fine faranno questi diritti della Lucas? Nel senso, sono in vendita o si ricciucciati la Disney? No, ce li ha. No, di fatto ce li ha la Disney, perché possiede la LucasArts. perché è acquistato da Lucas. E quindi esatto. No, ma anche per esempio, ritornando al discorso che tu hai fatto con Neverhood, ti faccio il parallelismo sempre col mio gioco LucasArts preferito, sì. Che anzi Lucasfilm, visto che era sempre Zack McCracken, è stato ideato, non so se lo sapete, da David Fox, che era il programmatore base, e lui il lead programmer, lui nel corso degli anni gli hanno sempre ovviamente chiesto ma perché non ora col discorso di tutte queste nuove tendenze come Kickstarter eccetera non te ne esci con un tuo gioco di Zack eccetera, ho detto perché i diritti ovviamente sono sempre sì. in mano a Lucas e quindi ora a Disney. Ma poi a me se non concesso che hai Zack, cioè voglio dire, a parte c'è stato un periodo che Lucas usciva tutte le IP originali, no? Sì. Ecco, Zack, Maniac Mansion e Loom. Zack, Maniac Mansion, Loom e Monkey Island. E Monkey Vabbè, Island, poi, chiaramente sì, sono le quattro. Scusa, per dovere di cronaca voglio anche citare che fino a non l'abbiamo detto che è stato pure un bel gioco. Full Throttle, certo, chiaro, bravo. Il gioco comunque idolo di noi motociclisti nerd. E poi il canto del cigno, che è stato ovviamente che è stato tra l'altro un gran canto del cigno, diciamo. Sì. Sì. Fa venire una voglia di picciolare. No, ma la cosa spettacolare è che, appunto, dicevo, loro hanno basato tutto su IP originali, a parte ovviamente alcune reiterazioni, quindi praticamente di Monkey Island e Day of the Tentacle, sì. che sì, è una sorta di seguito, anche se molto, sì, molto sì. rielaborato. E poi ovviamente sono i giochi di Indiana Jones, ma quelli li escludiamo perché. Però ecco, loro hanno ce l'hanno il materiale, cioè, capisci? Ma ce l'hanno avuto perché creativamente ce l'avevano. E se vogliono, cioè, ma a me mi basterebbe veramente, al di là di tutto, uno Zack McCracken Deluxe Edition o Special Edition, esatto. come hanno fatto con Monkey Island. È vero, ci sarebbe molto più da lavorare rispetto a Monkey Island, e questo lo dobbiamo, perché lì c'è da fare proprio rifare le animazioni e tutto quanto. Però cioè, io me lo giocherei, ma io come tanti altri. E poi li vorrei vedere i dati di vendita ma perché anche, scusami, Loom ti ricordo che in realtà faceva parte di una trilogia di sì. cui loro già avevano anche pianificato già la storia di tutti degli altri due. Quindi esatto, di fatto uscita, le sceneggiature purtroppo. Esatto, le sceneggiature eccetera, loro già le avevano già scritte ai tempi, quindi che gli costava. Vabbè, io proseguire. Starei qui le ore. Tutti quanti staremo qui a rimangare allora, quando i treni arrivavano in orario. Esatto, io direi di fare un giro finale libero, nel senso, ognuno di noi dice quello che si sente di dire rispetto al ricordo o rispetto magari al dispiacere o rispetto alla situazione, insomma, quello che vuole. Facciamo un bel giro a rotazione, compreso Alex, e poi andiamo verso i saluti, perché intanto ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato in streaming, perché nonostante i problemi che ci abbiamo avuto e nonostante la lunghezza dell'episodio, ci fa piacere il fatto che comunque la gente è rimasta ad ascoltarci e ha anche fatto delle domande. Io partirei da Simone, che probabilmente stasera è stato un po' quello un po' più zitto. No, più zitto, più calmo. Allora, devo fare una conclusione mia personalissima. Sì, andiamo a chiudere, quindi quello che ti senti. Vabbè, di dire. Fino a oggi è stato bello così, diciamo che è stata una bella avventura e grazie di tutto, questo magari è doveroso. E poi io spero che ne nascano un'altra 5-6 di LucasArts, cioè di Lucas Game e Lucas Film, insomma. Manca un po' quell'ingenuità che c'era un po' in determinati ambiti, che aveva forse il contesto, forse il periodo storico, non te lo saprei individuare adesso, però mi piacerebbe che si riuscisse ad arrivare ai fasti che ebbe, per chi l'ha vissuto prima, chi dopo, come noi, ecco. Quindi questo me lo auguro un po'. Per il resto speriamo che Disney non fa cazzate, diciamo, parliamo proprio personalmente con loro, chiediamo di non fare stupidaggini e di cercare Disney tipo Rosy Bindi, Disney per favore, Disney. Mi auguro questo e per il resto passo, passo la parola, non mi viene in mente altro. Attualmente. Devo decidere a chi passare la parola. A chi? Sì, è vero, sì, come quando passi la gara, no? A free playing la passo a Giuseppe. Ok, va bene, io ho detto, ribadisco la mia idea all'inizio, che di fatto ormai la spina è stata staccata, le macchine spente, il baraccone, esatto, il baraccone che è chiuso definitivamente a chiave con la saracinesca, i lucchettoni, quindi di fatto non mi aspetto di rivedere nient'altro da Disney. Sono, diciamo, parzialmente speranzoso appunto in tutte le varie costole che sono nate nel corso degli anni passati. Mi riferisco ovviamente a Double Fine, che ora finalmente con Broken Age ex Double Fine Adventure sembra promettere qualcosa di qualitativamente interessante, e anche ovviamente con Telltale che diciamo si è evoluta prendendo un suo stile, sì, con il gioco esatto, a forza di sperimentazione è riuscito a trovare una strada, esatto. E poi per il resto, utilizzando una frase di un noto romanzo, ringrazio Lucas dicendo arrivederci e grazie per tutto il pesce. Spero che ti conti di voi, sì, o di voi la no. Allora io dico la mia, poi dopo Alex e Stefano gli lascio la conclusione sta botta, perché se lo merita. E mi ricordo una volta su Cuore, non so se ve lo ricordate, c'era un giornale satirico, si chiamava Cuore, ma c'è ancora Cuore, cioè nel senso c'è ancora, l'hanno ripreso, okay, a pubblicarlo un paio d'anni fa, comunque sì, sto ricordando anni fa, mi ricordo c'era questa polemica sulla parola Nutella, no? Perché comunque giustamente a Ferrero voleva monetizzare anche sul brevetto del nome Nutella, no? E c'era questo articolo che era sì un articolo satirico, ma in realtà era un articolo molto sentito, che diceva che però non era giusto, perché in realtà Nutella oramai è patrimonio dell'umanità, e paradossalmente alla fine è quello che le persone come me, quelle che vedono le cose in una maniera diversa, che probabilmente eccedono in un certo tipo di romanticismo, dicono ok, se tu hai chiuso la baracca, che di per sé era un simbolo, concedi all'umanità, voglio dire, questi patrimoni che tu hai regalato, e che comunque c'è stata gente che ti ha ripagato, come abbiamo detto durante la puntata, per tutto questo. So che purtroppo questo probabilmente non avverrà mai, e finiremo come è finita probabilmente Vivendi, come dicevamo prima, e Sierra, quindi di conseguenza con dei franchise che stanno lì bloccati e senza senso, perché poi alla fine chiaramente non King's Quest oggi non avrebbe senso dal punto di vista della commercializzazione per un, che ne so, per uno sviluppo milionario di un gioco AAA, no? Capisci? Quindi è roba da indie, è roba da appassionati, è roba da nicchia, quindi concedete probabilmente a chi, ecco, tipo Telltales o come gli appassionati o come i gruppi indipendenti vogliono, se possono ovviamente mettere mano a questo materiale che voi tanto terrete lì ad ammuffare sicuramente nei secoli a venire. Insomma, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, perché ribadisco, insomma, io sono stato molto legato a questo. Non so perché, Simone, ma mentre stavi dicendo questo mi è venuto in mente, a tema Lucas, la scena di chiusura del primo film di Indiana Jones, quando c'è il vecchietto che mette la cassa dell'Arca dell'Alleanza nel magazzino. Sì, hai presente? Così sono le IP di Lucas, sì, Art, ormai sì. Stipate là nel mega, accanto all'Arca dell'Alleanza, nel mega magazzino. E sì, Stefano. Sì, allora io concludo in primis salutando Monica. No, non lo so, prego. Vado io. Alex. Vai. Allora, prima di tutto ringrazio voi 5, voi 4, voi N che siete venuti dopo che ieri sera vi ho detto facciamo sta roba. Poi ringrazio assolutamente quelli che ci hanno seguito fino adesso in streaming, perché ci vuole tanto coraggio, siccome è mezzanotte e mezza, domani comunque è un giorno lavorativo. E allora, io penso una cosa. Disney è un impero. È un impero che ha un'etichetta di una casa discografica, ha un canale televisivo, fa film, fa videogiochi, fa un sacco di cose. E come tutti negli ultimi 15 anni c'ha bisogno di IP. E considerate il fatto che qualche anno fa hanno tirato fuori uno dei film più fallimentari che hanno girato, cioè Tron, e ne hanno fatto un seguito spendendo $200 milioni, una cosa del genere. Comprando Lucasfilm e tutte le sue consociate, hanno comprato Guerre Stellari, vabbè, hanno comprato Indiana Jones, ma hanno comprato anche tutta sta roba qua. Adesso è ovvio che si prendono i pezzi grossi e cominciano a snocciolare tre film di Guerre Stellari, più due spin-off, più serie televisiva, più cuscini. La serie televisiva l'hanno cassata, eh? Sì, ma ne faranno un'altra, cioè nel senso... Hanno cazzato quella? Tireranno fuori qualcosa da Indiana Jones e poi cominceranno a scavare nel passato. Cioè io non mi stupirei se fra tre anni mi dicono: ma ritorniamo Monkey Island, che i piccoli non sanno più, non sanno cos'era, ma per i grandi e lo tirano, insomma cercano di farne fuori qualcosa, come un po' come è stato John Carter l'anno scorso al cinema, due anni fa, cioè un libro che nessuno conosceva e hanno deciso facciamoci un film, che poi non è andato neanche tanto bene. La mia paura è che venga fuori il film di Monkey Island, non tanto perché potrebbero non fare un film bello, quanto perché secondo me era un prodotto talmente ben oliato e congegnato nel suo medium di origine, cioè il computer, che portarlo al cinema insomma lo trasfigurerebbe in qualcosa che non c'è. Il film di Guybrush Threepwood, eh? Esatto, se sono riusciti a tirar fuori quattro film spendendo perché sentivo Simone che mi astimava, ma in realtà i Pirati dei Caraibi è pieno di citazioni di Monkey Island, ma anche visive. Vedi che Ron Gilbert si ispirò per la creazione di Monkey Island, tant'è che infatti nel 2 la parte finale più che altro si ispirò a un'attrazione di un parco divertimenti sui pirati, per fare tant'è che infatti, se vi ricordate, nel 2 alla fine c'è, diciamo, scopri che le isole sono collegate eccetera, e sembra tutto una gigantesca Big Whoop, è tutta una gigantesca attrazione. Quando dici Big Whoop, perché è ancora il segreto del Big Whoop, no? sì vabbè, comunque cioè, nel senso è veramente visivamente ci cioè, sono ancora inquadrature, ma oltre ad alcune situazioni che comunque ai Pirati dei Caraibi prendono veramente a mani basse, insomma, da Monkey Island, insomma. Quindi questo è, però vabbè, Alex scusa, vai, continua. No, figuriamoci, ripeto, cioè secondo me se le tengono lì e poi magari nel momento in cui nessuno più se l'aspetta, nessuno più le desidera, le tireranno quando fuori. Quando qualcuno se l'ha dimenticato, perché poi è quello il problema, no? Sì, esatto. Detto questo, la cosa che mi ha stupito di questa chiacchierata di questa sera è che tutti noi comunque, pur avendo giocato praticamente tutti i giochi di Guerre Stellari, come fossero X-Wing e TIE Fighter, che sono stati dei grandissimi giochi, sì, cioè nel cuore ci abbiamo tutte quelle avventure grafiche che hanno tirato fuori in quei sei anni, sì, che hanno veramente rivoluzionato il modo di comunicare con questo mezzo. È veramente interessante, nonostante la Lucas avesse sempre fatto delle cose tecnicamente all'avanguardia. E la parte sul 3D, ripeto, X-Wing e soprattutto TIE Fighter avevano dei motori di gioco molto molto belli, sì, mentre paradossalmente i motori di gioco di avventure grafiche non erano delle cose così stratosferiche, noi ce l'abbiamo, cioè ci ricorderemo sempre di quel cazzo di pirata, di quel tentacolo, di queste robe qui, sì. Ed è interessante perché fondamentalmente, pur utilizzando un IP nuove, mentre appunto Guerre Stellari ereditava tutto il peso della saga più famosa di sempre, di quella che sarà probabilmente la saga più famosa di sempre, cioè se questi IP sono nati con questo mezzo e di conseguenza sono più non so, per noi giocatori, per voi giocatori hardcore, io mi considero un medio core, cioè erano parte integrante, era roba nostra, nel senso non è che era roba che ereditavamo, ci siamo nati insieme, ci siamo conosciuti insieme, ed è forse stata questa l'ispirazione per quello che ho scritto all'inizio, cioè nel senso il mio caro amico con cui ho scoperto delle cose per la prima volta. E basta, niente, vi auguro una buona notte, è stato bellissimo stare qui con voi. Bravo bella riflessione. E quindi lasciamo a Stefano, insomma, l'onore di chiudere proprio la parte centrale della trasmissione, andare poi verso i saluti, i riferimenti, i cazzi e mazzi e via dicendo. Benissimo, allora io riprendo quello che stavo dicendo prima, quindi saluto Monica che voleva ascoltarci in diretta e c'è riuscita. Saluto anche Federico, mio compaesano di Cagliari, che non conosco, ma mi fa sempre piacere avere gente della mia razza, diciamo, tra gli ascoltatori. Cito un episodio a base di giochi della Lucas recente, perché risale a quest'estate, mm-hmm. praticamente, oddio, dell'anno scorso, è la verità, dove con Danilo Tanda, quindi già collaboratore di Dietrologia Videoludica, ci siamo ciuccati come delle bestie e in preda ai fumi dell'alcol ci siamo messi a giocare a full throttle per ore e ore. L'abbiamo quasi finito, eravamo in stato di coma vigile, ma è stato comunque bellissimo, perché sono quei giochi che anche giocati 10 volte continueranno a interessarmi e a piacermi. E concludo dicendo che io non so come andranno le cose, chiaramente non ho la sfera di cristallo, ignoro come andrà, perché tutto, perché sei un vecchio trip burger. Esatto. Vecchio trip burger. Comunque, dicendo che io non so se sia meglio vedere qualcosa di nuovo che può essere brutto ma nuovo, oppure rimanere con un bel ricordo, col ricordo di qualcosa che è stato formativo, tra virgolette, della mia infanzia, della mia adolescenza videoludica, e mantenere il tutto così com'è. Quindi questo non lo so, io davvero rimango rimango spiazzato se devo pensare. Giacomo, sai, non avrebbe mai voluto dare una risposta a questa tua domanda, insomma. Quindi... E comunque, al di là di tutto, penso che sia colpa delle scie sempre chimiche. Sempre. Al di là di tutto, invece, farei anche una, insomma, un'interpellanza parlamentare in merito a questo. Ma anche, secondo me, sono cose molto importanti. Esatto. Guarda, sì. Soprattutto in questo periodo dove c'è proprio bisogno di parlare di cazzate. Sì. Esatto. Di cazzate, comunque. E niente, detto questo concludo. Io ringrazio chi ci ha seguito, chi ci sta seguendo tuttora nella diretta e chi ascolterà il podcast, che probabilmente uscirà anche comunque, diciamo, su Retrocast come episodio laterale, tra virgolette. Ci siamo scordati di dirlo all'inizio, visti i temi trattati. No, però visti i temi trattati direi che ci sta mica bene. E niente, ringrazio voi soprattutto che siete rimasti sino a qui a parlare col sottoscritto e ogni tanto mi avete anche ascoltato. Allora, guarda, facciamo velocemente, andiamo a salutare, quindi www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito, dietrologiavideoludica@gmail.com è il nostro, la nostra mail, chiaramente, dietrologia videoludo è il nostro Twitter, e poi la pagina, ovviamente, dietrologiavideoludica.it, sì, no, è la nostra pagina su Facebook è ovviamente solo Dietrologia Videoludica, scusate, ma allora si è fatta tarda. A Stefano, ovviamente, i dati, magari dai anche i riferimenti di Retrocast, perché noi in effetti l'abbiamo pubblicizzato come un crossover, questo tra Dietrologia Videoludica e Retrocast, ci siamo scordati tra tutti i casini dell'inizio magari di dirlo, quindi Stefano vai con i riferimenti. Nessun problema, Retrocast, quindi trovate su www.retrocast.it o su Facebook cercando Retrocast o Retrocast Pod su Twitter, oppure potete iscriverci a podcast@retrocast.it. Perfetto, prossima puntata di Dietrologia Videoludica si parlerà di PlayStation 4. Attenzione, perché sarà una puntata molto dietrologica, quindi una puntata molto particolare. Ringrazio Stefano. Ah, ringrazio te, ringrazio tutti come sempre. Ringrazio Giuseppe. Grazie a voi. Che era già andato a dormire. Era già a lei. ringrazio Simone. Grazie a voi. e ringrazio Alex Racuglia che ci ha fatto anche da regia questa sera. Insomma, grazie Alex per averci supportato e sopportato. Grazie allora, a voi. Alex, si attappa un attimo le orecchie perché per salutarvi e darvi la buonanotte a tutti quanti diciamo anche Disney merda. Ciao. Ciao Disney merda. Ciao Disney merda. Io mi dissocio. Questa è la bastardata finale. Saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Forse anche una parte di te è morta in questi vent'anni. Questo che sai e di cui ti rendi conto, ma una parte di te, quella che sogna, perché non smetterà mai di sognare, continua a sperare. Oh no. Non vedo. Ci siete? Nessuno. È crollato tutto. È crollato Google. Oh. Pronto? Oi. Oi. Porco. Sì, cazzo, stavo facendo la lettura più bella degli ultimi 15 anni. Era. Mamma, cioè, Google ogni tanto ci lascia a piedi. Ma porca miseria. Rig. È brutta oggi, eh. Puttana, cazzo. Sono ricaduto io. No, no, io ci sono. Stavolta non è colpa mia, incredibilmente. Ci sta boicottando stasera. È Saso, ti continuo a ripetere che è Saso. È Saso. Sì, sì, si ostina a usare Safari. Ah. E cazzo, adesso sono Firefox o Chrome. Salutiamo i nostri teleascoltatori, sì, che ci stanno seguendo in questo bellissimo momento di unpassing in cui i server di YouTube stanno facendo un po' le bizze. Per la diretta di Santoro, sicuramente. Oppure un denial distributed. Ci stanno addossando. Denial of service. Sì. Dalla Corea del Nord, direttamente. Zitto, non nominarla. Io sono l'unico luogo sicuro d'Europa, praticamente. Circondato dalle bellissime montagne, esatto, svizzere, terrorizzato, pronto a rinchiudermi nel mio bunker antiatomico. Okay, spero che Marco Gualdi stia facendo un po' di divertimento, non si so, bici della puntata. Sì, sta dando la colpa a te. Aiuto. Niente, i nostri Simone Pizzi e Giuseppe Saso, probabilmente è stata veramente la prima testata nucleare lanciata su Roma. Sì, ma dai, sì, no, hanno fatto bene i leghisti, da tanto che lo dicono. Ah, no, però anche cognome viene da Roma. Ma lui è di un altro punto. Più lontano. Sì, esatto. Ma non è ancora arrivato l'onda d'urto, probabilmente. Adesso imploderò anch'io. Cos'è che non esista uno strumento che non sia pagamento per fare queste cose? Ci sono. Oh, ok, Pizzi. Anche Roma è ritornata su internet. Ma che è successo? Stava a legge pure bene. Qualcuno che usa Safari, io dico. No, non è vero. No, no, guarda, lì c'è scritto. Oh, comunque non ho staccato la registrazione. Bravo, cioè sta continuando. Ottimo, ottimo. Guarda che ci stanno seguendo bellissimamente. Anzi, salutateli. Ciao, riprendiamo. Ci scusiamo intanto. Cioè, io ero nel pathos più totale della lettura della cosa. Sì, toccando una parola, si era mangiato solo una parola. È vero, mi sono mangiato solo per una volta, dai. In tutto quell'ambaradan di parole, sì. Poi. Comunque. Sì. Azzo, su YouTube non si. Scusate, ma su YouTube non si vede niente. No, non si vede niente. Beh, a meno che tu non attivi l'immaginine. Dovremmo. Bisognerebbe mettere un'immagine di sfondo, non sarebbe male. Comunque. È uno scherzo oppure non mi. 7, non 7, è caduto Simone Pizzi. Bene. Sono caduti tutti. Sta diventando un problema, eh. Ehi. Prova 1 2 x. Let me hear that sing your song. Mm-hmm. coglioni. Mm-hmm. C'è Santoro, ci sarà sicuramente la cosa. Pure quello fa tanto traffico. Ma che Santoro trasmette in Google Hangout. E il problema è che se lo rifà pizzi, dobbiamo anche dare un altro indirizzo di YouTube. Mamma mia. E quindi è tutto un serpente che si morde i coglioni, neanche la coda. Un guarda. Serpente con la coda in bocca, come c'è esatto. Un serpente con la coda. Non so se grande il trap. Vedi la Disney. Non è possibile. È tutto complotto della Disney. Vedi a mettersi contro i rettiliani cosa succede. Mettersi contro Peppe. Peppe Grillo. Questo è Peppe Grillo. Questo. Peppe Grillo. Pizzi sta chiedendo aiuto a Racuglia. Andiamo bene. Moriremo tutti. Attenzione, adesso mi dicono di aprire Skype. Non mi dicono di aprire Skype ed è aperto, quindi. Allora devo riaprire. Ancora peggio. Bello, è tipo Twitter, c'ho le notizie in anteprima. Andrea, cazzo, avevo spammato la cosa dappertutto. Minchia, c'erano cani e porci dentro. Infatti, ma Pizzi, ma che cavolo. Pizzi, ma che stai a di? Vizi. Ma poi noi siamo ancora in hangout. Sì, no, ma aperto da chi? Stiamo sfruttando un buco. È un buco lasciato dal precedente governo, penso. Esatto. Siamo infilati. Go, go, go, esatto, go, go, il nostro go, go, go, go, go. Io mi sto sentendo la tastiera lontanissima dal microfono, sono preso a rabbia. Come procede il lavoro? Bene, bene. Oggi mi hanno detto che ho passato il periodo di prova di 3 mesi. E niente, ragazzi, andiamo in, registriamo e basta. Sei sicuro? Ma ricominciamo da qua, io la registrazione la butto. No, bella, non butto allora. Niente. Sei sicuro al 100%? Sì, e tanto ci ho provato pure io a rifarlo e ci è butta fuori. Cioè il problema è che è proprio la diretta che non si può fare a questa condizione. C'era un po' di gente, cazzo. Lo so, bella. Aspetta, che forse ho trovato una soluzione in tempo reale. Come fai a portare tutti noi sul live stream, scusa? Fortuna che ho due computer. Con parti di cadavere un fulmine, ovviamente. Con Nick Split. Sì, aspetta, però ve lo devo mettere qua. Oh Alex, dire che te ho pure accontentato. Nel frattempo avevo installato, aperto e tutto Chrome. Sì, anch'io sono passato a Chrome. Ma... Io addirittura domani arrivo a Telecom. Addirittura ho cambiato gestore di telefono. Che strozzo. Sì, è vero, sono pure io, solo Alex. Sì. Aspetta, non vorrei che fosse vuoi una questione che... tutto il successo per te, caro Alex Racuglia. Devo pigiare dentro, non vorrei che fosse perché se prima funzionava io non ho cambiato niente. No, io invece con Sunflower e con live stream ho fatto la più bella puntata in diretta di archeologia videoludica. Quella che... Cioè nessuna, no, non no, ce n'è no, una. Ce n'è, beh, no. Prima dovresti farne una no, decente, ce n'è una, poi una ce bella. Ce n'è una, c'erano le sigle, c'erano i sottofondi, c'erano gli stacchetti, c'erano le interviste, tutto ci avevo messo. Me la ricordo, ecco, bravi. Quella dove sei spogliato e ballato nudo, sì. Quella del reportage, bravo, del bravo, bravo. Però il problema è che stavo da solo, cioè, capito? Oh, torno subito. Bello, facevi tutte le voci. Ciao, Simone. Ciao, Mario. Io veramente penso che questo posto sia fantastico. Cioè, ma perché cambia voce nel mentre? E vabbè, pure questa che doveva durare un'oretta e mezza, se pure stavolta. Però cavolo, se tutti questi interruzioni hanno inficiato il voto che ti volevo dare. Perché sì, vabbè, ma dovete darmi il voto scevro da queste problemi. Cioè la prima volta, la prima parte, è proprio bello, mi sta. C'è Bruno che si è commosso nelle mutande, ma ha scritto ma l'ha scritta lì, è proprio ignorante, gli è piaciuta tanto, nel senso che dopo aver detto che su Star Trek ci stanno le barchette, per me Bruno ha chiuso, no, nel senso, no, comunque era davvero sentita per come l'ha letto Stefano, davvero. Secondo me un po' ci sei immedesimato. Sì, beh, cazzo, sì. Non mi sento degno di okay, mi sentite? Sì. Ok, adesso devo cercare di far sentire voi al mondo. Che non è come dirlo. Parlate? Parliamo. Bla bla bla bla bla. Parliamo. Okay. Io non sento un cazzo. Manco io. Ok, e in diretta. Non ci sei neanche tu, ci sei adesso. Vero. In live. Non c'è proprio più niente adesso. Aspetta un secondo, mannaggia. Sì, si dice mannaggia i pescetti. Mannaggia i pescetti. O a quel porco maiale, così. Senza dire chi, si dice solo. Io non sono uso. Non sei uso, Luca. Cioè, sei abuso, ragazzi. Anche all'italiano, poi. No, no, quello proprio no. Scrivo anche. Mi dico, oh, scrivi molto bene. Beh, scrivi copi, articoli. Diciamo, ecco, non l'aveva ancora detto nessuno. Scusa. A proposito, ma serve per il mese di marzo di idrologia qualcosa? Serve sempre qualcosa di idrologia. Sta proprio con l'acqua alla gola. No? A pizzi qualcosa serve sempre, tu lo sai. Beh, facciamo che a questo punto la diretta la mandiamo, ci andate solo voi. Però... no, scusa, e tu? Ma sì, ma chi se ne frega, devo dire una cagata infame, no. Non serve a niente. No, no, io voglio Alex Raccuglia. Voglio Alex Raccuglia. Ma tanto non si sente né lui né noi, quindi... Sì, infatti, quindi non c'è nessun problema. Datemi un secondo ancora. Vabbè, ancora okay. Basta. Perché... io volevo vedere The Voice stasera, mi sa che mi vedo registrare. Ma che cazzo ti corri quella caga? E Santoro invece, però a metà, non so. C'è Freccero che io... A Santoro scrivi a Santoro e gli dici ringrazio a Dio che non ha funzionato l'engaggio. Esatto. Dici, oh, la smetti, l'invidia è una brutta, brutta bestia, l'invidia. Santoro. A Santoro. Tace. Che è partito? Vedo video Niga. Siamo partiti, qui partono sigle a cazzo. È partita la sigla di video Niga. Video di... un 2-3, un 2-3, perché non c'hai l'input, puttana la miseria, zoccola. Puttana la maestra. Ah, siamo su Delta Frame TV poi, ragazzi, mia. Oh, mica pizza e figli, ragazzi. Mica ceppe de cazzo. L'altro, io penso che comunque nel frattempo la gente se n'è andata, cioè. Beh, ne avrebbe ben donde. Sì, me ne vado pure io tra un po', quindi passo dalla parte degli ascoltatori. Non fare il famone. Non si abbandonano l'amici nel momento di... No, Pizzi, non me ne vado, Simone. Non fame. Venimo te corcamo. Sono cazzi tua. Sono cazzi tua. Alex, erano le 10 che sapevi cosa fare. Mo. No. Ma bella efficienza milanese. Attenzione, è apparso qualcosa sullo schermo. È il pub di c'è Alex. Scritto Alfiles. Immagini, ci ha fatto tipo attaccare. C'è una porzione dello schermo del computer di Alex. Sul... perché lui perché sta in voglia. Dai, devo trovare un tranquillo. 3 centimetri. Prova col tuo pisello. E tutti giù a ridere a sganassoni. No. Le matte risate. E questo oramai c'è, cioè, tutti i bloopers, chiaramente. Magari sì, sì, cioè, mi immagino come li mostrano. Ci sono più bloopers che puntata attualmente. Non perdi la puntata fatta di bloopers. Ecco, mi sento. Oh, mi sento. Dovremmo esserci. Bello, okay, tu Stefano sei a sinistra e noi a destra. Ragazzi, questo. No, sì, aspetta, Stefano, no, forse posso farcela. Ma tanto questo è tutto lavoro per Simone, quindi va bene. No, ma per la gente che ci. Stefano Biggio. Male? È ripartito tutto? Sì, no, no, no, l'ha fatto lui. L'ha fatto lui. Per mandare in mono. Per mandare in mono. Non è ripartita la sigla a cazzo. Ale. Oh, siamo quasi contemporanea. Vuole la mia password. Vuole la mia password. Avrà anche i suoi motivi. Pisellone. Ti è andato in streaming. Ma non è questo. Ma non è questo. Vabbè, ma è ancora peggio. Io la so la tua password, per cui. Io ce n'ho una, però di qualsiasi cosa. E lo so. Una persona ha visto questo elemento. Allora. Vabbè, vado. Vado. Dai. Ok.